Ciao a te, buonasera. Buonasera, buonasera. Anche io, ora, forse. Digerito, ho guardato il Gran Premio, le Ferrari come al solito lo schifo. E vabbè, va. No, quelle non le guardate perché ne sono andato... non abbracciai Morfeo e quindi mi ha avvolto, sono uscito 5 minuti poc'anzi per accompagnare mio figlio a una festa e quindi niente di che. Andrà bene, io no, vabbè, io me lo guardate tanto. Tanto ho venuto la domenica, almeno quello ci guardiamo, va. No, vabbè, ma io diciamo la verità che non so neanche che ore sono, guarda, lascia vedere. Che ore sono? Blu. Cazzo di sole. E non fa neanche tanta pennichella, non ti credere che sono le 5, fai che boh, verso le 3 mi sono sdraiato un attimino. No, io pennichella niente, se dormo un po' pranzo stavolta rimango stavolta sveglio. Ah, giusto, mi sono buttato nel divano così per rilassarmi un pochino, niente di che. KK, però io adesso aspetto che mia figlia ci fa due compitini veloci e poi ci faccio una passeggiata per non stare a casa buttato. Domani ce l'abbiamo libera, domani mattina vado a farmi le visite della ditta. Ah, buona, meglio così. Andare, cosa così già va bene. E vabbè, tanto se no mi toccava salire macchina mia al lavoro. Invece me l'ho presa libera. Sì, vabbè, tanto va bene anche per loro. E insomma, loro già mi vorrebbero lì. Grazie. E appunto Baghisso. E poi non c'hanno... Questi due giorni ero col Dumper. E non c'hanno Dumperisti. Ah, ho capito, vabbè. Allora già va bene. E beh, quanto ce l'hai lì? Cioè... E ancora io penso per 3 anni buoni, dai. Buono, e allora che te lo fa fare mollare lì allora? Sì, già lo sto mollando infatti ancora. Nel senso, stavi valutando, ma secondo me ti conviene male lì. Sì, vediamo adesso, vediamo, uno cerca sempre il meglio, no? Sì, non avete in dubbio, però qua insomma già la più vicina, però... E tutto da rivedere, dai, tutto da rivedere. Gatta, gatta. È una propagazione, non venne, no? No, già ce n'è, solo che in FM, e poi... non è tutta lingua straniera. E vabbè, gli costa poco quello, un paio di birrette in più e parliamo tutte le lingue. È vero. Sì, dopo io ho messo lo smitterino a quel... da quel 360, l'avevo tolto da quella radio e gliel'ho messo, dai, anche se non è il suo, però gliel'ho abbinato e funziona anche bene. Sì? Sì, no, lo smith di quello era proprio rotto completamente. C'avevo una di quelle radio vecchie, forse ti avevo mandato anche una foto di quella vecchia. Gliel'ho messo, gli ho fatto il buco col saldatore per infilarci la lucettina, se no era buio. L'ho piazzato, l'ho provato e funziona bene. Andare, no, io volevo sentire a Marco perché sicuramente è dalle zone di Alghero, giusto per capire come stava arrivando. E boh, fale uno squillo se c'è. No, lui ha il mio numero, io no, vabbè, ci metto poco ad averlo, però magari è... boh, non lo so, ma adesso vedo un po' se chiama. No, non voglio che salvare la gente, non fa. Ma ieri è entrato, ti ripeto, allora, staccato mi arrivava a 5 e lanciato mi arrivava a 9, quindi non so se è proprio dentro la città o periferia, buh. Ma sinceramente neanche io. Aspetta, provo a mandare un messaggio a un'altra persona, dico fammi chiamare, aspetta. Ehi, siamo qua. Vabbè, non venire nessuno, no? Tutti i vendinarici di buco, così, di bravo fè. Non è online, quindi non so se mi risponde o meno. Però uso una tattica che vede uguale, anche se non è online. Boh, non so cosa fa, forse per tutti, però. Ah, ma lì su WhatsApp? Sicuramente legge il messaggio, lui non è online, però sa che lo vede, capito? Sì, lo puoi fare anche tu, lo puoi mettere anche tu. Capito? Anche i baffetti non diventano azzurri, rimangono grigi. E anche se online, o in offline, lui lo vede lo stesso il messaggio. Così, io lo so perché mi ha detto lui, non perché, perché sennò sembra che non è mai online. Sì, vabbè, basta entrare nelle impostazioni di WhatsApp e c'è. Sì, sicuramente, ma non mi ha mai interessato. Bebè, cocomani! Poi ciao Lugarie, buona! Bebè lui. Sì, allora, rientro a torre, oggi a pranzo mio fratello, prodotto Torres. Adesso mi metto a lavoro, dai, rimango in ascolto, vi ascolto volentieri. Al lavoro, è così, impazientisi. No, riparo il computer, Massimiliano. Devo cambiare un pannello LCD. Ah, ha giocavito. Va bene. Ciao Luca, ciao. Purtroppo non le guardo domenica e sabato, che ci viene il vostro, non la giuro, non il bimbo. Che bene buccia non è lì, no? Sì, magari. Mi è capitato e lo faccio, dai. Perché uno l'ho già sistemato, se aspetto che mungano. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo magari. Fai. Preparate il bidone, che sia pieno per il latte, se no metti del filtro. Col siero. E se no domani mattina ti fa dare la giotta. Avvio. Ho la cosa. Se non mungono, tu vieni a futtidini, io o lui. Ma se non si accenda. Gappa. Massimiliano, prepari da un poco per l'uscita, a me poco mi manca, lì ancora non ci vedi. Fra un po' sì, Fra un po' ci abbiamo arrostito le candeliere, è vero. Basta, cazzo, arrostire, anche io ci mi è toccato, Anche a me, non ti ho mandato la foto, ma anche io. Anche a me a pranzo, è avanzata qualcosina da ieri. E per non stare lì a cucinarla, a scaldarla, che non è che la carne arrosto sia proprio buonissima, scaldata. Ho riacceso il fuoco. Sì, ma Luca sta dicendo, noi facciamo la rosita dei candelieri lì in Porta Sant'Antonio ogni anno, capito? Ah, buono. Beh, io non è che sono molto fan, per dire la verità, io sono anni che non faccio e non vado a vedere i candelieri, figurati. Né cavendirini, né cavalcata, no, non me la fatti nulla. No, io lo stesso, a me i candelieri non piacciono, ma noi facciamo la rosita prima dei candelieri, qualche giorno prima. Ah, allora già è buono, E Luca qualche volta già è venuto, vero? Sai cos'è? Lo conosco solo a te, com'è? Ti conosco proprio. Conosco altre persone, ma purtroppo è un casino, perché ci sono prima loro, qua e là, poi magari capita che arrivo subito, ma poi la gente si lamenta. Dice, ma poi è arrivata adesso, perché siete amici, purtroppo si lamentano. Ehi, a me, se si lamenta me la fotte nuda. Io se vedo un amico, prima servo l'amico, la bue. E se mai niente a bramida, gatto, non ho mai visto roba magna. Ma allora, non mi ricordo che periodo era. C'era il mio cugino che per me poi sta bene, perché siamo troppo. Siamo un po' senza vederci, però quando ci vediamo come fratelli. Era un periodo che stavamo facendo la melanzana, mi pare, la melanzana rossa se non mi sbaglio. Qui sono avvicinato e l'ho visto, cazzo, quando l'ho visto. Dai, dammi una piatta, io qua, guarda! Tutta me vedete. Allora, già è bella, va. Per lui è un po', diciamo che è anche un po' faticosa, perché cioè è bello quando tu stai andando a farti una passeggiata, ti fai un giro, arrivi, magari trovi due amici, mangi qualcosa, ma quando sei lì dalle due di pomeriggio, sotto l'usore, già è, perché poi è d'agosto, capito? La fanno intorno all'11, il 12, quindi sei proprio nel pieno caldo, alle due di pomeriggio ce n'è da squagliarsi, in più ti devi preparare tutto, tagliare il pane, melanzane, preparare la roba da arrostire, preparare il fuoco, lo so, vabbè, ma poi la gente più che altro va la sera all'imbrunire, insomma, a prendersi un po' di fresco, non a sotto l'usore alle due di manzana, cioè alle due di pomeriggio. No, vabbè, tanto alle 2 del pomeriggio fanno entrare solo a noi, perché chiudono, ho capito, la strada. Fanno entrare a noi con camioncini a scaricare frigo, barbecue e tutta questa roba qua, capito? Sì, no, no, la gente arriva intorno alle 8, dai, 7 e mezzo, alle 8. Infatti. Scusate io gente, se prendo dopo, se non si capisce niente. Ok, Luca, sta facendo il computer, vabbè, dai, già rimango che l'ascolto, senza qualcuno. Ehi, a dopo, là. Sì, Massimiliano, con la fame vengono lì. Davvero, me, vabbè, comunque. No, l'anno scorso, diciamo, abbiamo finito un po' prima, perché... Allora, ti spiego, siccome lì chiudono la strada, per la questione degli spazzini, dei tram, quindi al posto di farci accendere il fuoco alle 8 di sera, come tutti gli anni, ce l'hanno fatto accendere alle 7. Quindi diciamo che noi alle 8 abbiamo iniziato a cucinare qualcosina, alle 10 e mezzo, 11 esagerando, non ci avevamo più nulla. Giusto, qua da Chitto, ma comunque c'è un po' di gente che... Penso che magari, no, purtroppo lì vedi mille facce, mille, magari viene la stessa persona 2, 3, 4, 5 volte, non te ne accorgi. Quello, no, vabbè, io già non mi metto mai a servire, perché se no diventa a far rendere di cura niente, io mi metto sempre al fuoco. Poi vabbè, se viene qualche amico o qualcosa, già gliela do io, quello non è un problema. Sì, infatti, dai. Poi ho trovato Antonio, un amico lo stesso, e ci ha detto la cosa, abbiamo sicuravo ancora con te, vediamo, come non passi. Comanda, sì, no, comanda. E tu la sera non stai più entrando qua, lui, al baracchino? Non ci sono qua, Massimo, sono la mia ragazza, capito? Io rientro alle 9:30, dai. Fa la puntura, ma poi mi zingo. Di solito già entro, quando tipo alle 9:30, c'è un trovattino a Gianni. Ah, entri sul tardi, dai, diciamo. Positivo. Se no, il tempo non è più, non è più come prima, dai. Prima viene la donna. Ma lo so, la sputa poi c'è l'impegno, ma comunque sono anche un po' impegnato, dai, su mi escono dei lavoretti, li faccio, poi mai molte volte sono stanco, no? Chi ne ha voglia? E appunto, infatti prima delle cose tue, la radio già viene dopo. Tu sempre a Olbia, sì? Dai, adesso sono un po' più vicino, adesso sono in zona di Arbera. Sono sceso sabato a Olbia. Accompagna la mia ragazza, dovevo partire, rientra martedì, devo ricevere martedì verso le, fai, alle 11 parto, partendo alle 11 andando alla media di 130, arrivo un mezzogiorno e mezza, sì. Andando alla media di 130, e dove vai la media di 130? Solo nei tratti più scorrevoli, là. E basta, poi il resto della strada te la fai un po' di meno. Sì, sì, diciamo nella parte dove si può correre, beh certo, poi là sai che vai a 30. Sì, vabbè, allora tu devi arrivare all'aeroporto così, alle mezzogiorno e mezzo. Diciamo che atterra a luna, dai, luna alle 13:05. Sì, allora voi, a parte alle 11 va bene. Ma parti a meno 10, 11 meno 10 te la fai tranquillo, senza che accorrendi. A voglia, per mezzogiorno e un quarto sei lì. Ma infatti faccio così, dai. Faccio così. Le cose, Massimiliano, perché io non sono mai abituato. Sì, giro in macchina, di Busto d'Orra, Sintino, Castelsardo. Però quando inizio a fare già chilometri in più, tipo Sassari Olbia, da solo, già non ti riballa. Ehi, già è vero, Lu, già è un rompimento. Perché non si è abituato, però adesso per me è come andare a Olbia, come che stai andando da qui a Sassari, capito? Io sono sicuro che per te è un gioco, no, da qui a Sassari, per te è un gioco brutto. Per me all'inizio proprio era una depressione, poi vabbè adesso cosa ho fatto? Quando sono arrivato lì a Olbia alle 10 sabato, li ho scaricati subito, me ne sono subito ripartito, vabbè, perché avevo appuntamento col barbiere, dai. Era un po' così, però io pensavo peggio, invece già ero più tranquillo, dai. Sono sceso nei punti dove potevo correre 170. Sì, già va bene, e nelle scorrimenti veloce. L'unico punto è stare un po' attento lì in zona di Oschiri, capito? Che ci sono degli autovelox che sono attaccati al guardaraggio. Lì ti fottono. problema è che non c'è manco pattuglia, capito? Sì, infatti l'autovelox che riprende tutto. Già lo so, Massimiliano, e vabbè. Cerco di stare attento, io già mi sono, se no, tanto. Se arrivi la multa, poi si paga, se la bili le luci, dato una bussuna. No, non è un fatto di una multa, se ti arrivi una multa, oltre alla multa ti ribili la patente, anche se non ti fermano, capito? Sono le tre camere. Ah, te la fanno anche la patente, la faccia. Eh beh, cazzo, da 170 puoi camminare a 90, fatti lo conto. Lo so, è vero. E vabbè, cosa vuoi fare? Io quando sono lì a Meserios, si chiama Gussi, sono pronunciato male, già lì mi si riallega il cuore. Sì, anzi, lì mi si insassa di chiavi. Appunto, quando iniziamo a fare la stessa riordine, la prima volta che sono sceso, allucinante, va, ma ne vergogna a dirlo. Siamo usciti a prendere la figlia della mia compagna. Tu non ci credi che io se non riuscivo a prendere a Sassari? Io ho fatto due volte un giro, ma non sono grandenti, vabbè che era buio anche, non è che ci valevano i cartelli. E poi alla fine ci sono arrivato e ho preso quella per tornare a Sassari. Sì, anzi, diciamo che adesso ci sono poche deviazioni perché diciamo i tratti lunghi sono aperti, ma quando c'erano quei tratti lunghi chiusi c'era un casino di deviazioni. Infatti, lo so. Ma comunque già sta migliorando con la strada. Ma tu lì sei, no? Cosa, Lu? Ho detto tu lì stai lavorando, la stai mettendo tu a posto la strada. Io adesso sono in zona di Meserios, capito? Proprio dove finisce la quattro corsie che inizi proprio la parte stretta di un po' prima del bar di Meserios, proprio lì so. Ah, ho capito, lo scavatore grande? Eia. Ho capito, io ne ho visto tanti sabato in movimento, quelli giganteschi. Io sabato non ho lavorato, quindi non lo so. Vabbè, però lo sto dicendo io, ce ne sono tanti di scavature grandi che stavano sperando questa terra, bro. No, già ce ne sono, lì c'è un po' di gente a lavorare il sabato. Paroci. Ah, sì, sono tutti quanti drummiti, so. Anzi, veramente, bisogna un me alici di buco. Sicuramente. Ma stanno riposando, bro. Scappa. Oh, lui, scendo un secondo a bere. Vai con comodo, io già sono qua, dai. Perché mi sa che il pezzo devo cambiare, non ce l'ho. Uno ce l'ho, ma non va bene, sono qua, dai. Ora. E beh, Lu, ci sei? E io? Grappa. Permesso? Sì, avanti. Gianni sono, ho attaccato il bambino. Ah, il bambino è attaccato. Allora, se l'ha attaccato, fallo diventare grande adesso. Come Massimiliano? Cosa ne dici? La radio è buona. Sto usando il suo mic. Dopo smonto lo spinotto e controllo i collegamenti e modifico l'altro. Avanti il breco, chi è? Gianni, mica dalla Croazia ti stanno chiamando. Gianni! Non ho sentito niente, Massimiliano. Cappa Rogero, va bene. Tu, mamma mia, metti la manetta, ce l'hai. Aspetta che ci devo fare l'abitudine. Aspetta che provo a tirarlo su. Il Mickey Gain è la manetta. Già va bene, va. Ok. Quello c'ha banda, FM, ti ha già fatto vedere come funziona, sì. Più o meno sì, dai. Il calibratore quello per l'SSB già lo conosco. C'è una cosa dimmer, una manopola dimmer, adesso guardo il manualino per vedere, che non mi ricordo che cosa serva. Cappa, mica c'è Luca anche. Ciao Luca, buonasera. Ciao già, saluto anche a te. Il dimmer serve per abbassare la luce del display. Ciao Claudio, buonasera anche a te. Buonasera a tutti. Serve per abbassare la luce del display. Bisogna abbandonare il manuale. Il forum, ciao Cla. Ciao, proseguite, a frappè. A frappè, ciao Claudio. Ascolta Massimiliano, credo che stia uscendo con 5 watt questa cosa qua, mi dici come arrivo? 9, appunti di 9, 2, non arrivi a 9, 5. Cappa Rogero, va bene, dai, l'ho acceso proprio 5 minuti fa, quindi devo capire, ma c'è il bip inserito per caso? Cappa già. Spero Levo. Ma che è stato quel cuocone di Claudio? Così sembra, e ma entra decido. Va bene, ok. Dai, era una bella radio quella comunque, là. Ha spiegato con l'autoparlante esterno. Ciao Lucaietti, scusa che me l'ho allontanato. No, io voglio parlare, proseguite. Comunque prova, Gianni, e vedi che muovendo il pomellino del dimmer ti diminuisce e ti aumenta la densità del display. Ok, cla. Il 45 ci sei già andato, già. Massimiliano, fammi la CD, l'ho appena acceso. Ci devo prendere la mano come tutte le cose nuove, no? No, pensavo ce l'avessi già da qualche tempo, da un po' di tempo. Andava, fai gli esperimenti. Guarda, Marco è andato via 10 minuti fa, per cui ho fatto l'adattatoria all'alimentazione e l'ho collegato adesso. E io, andava. Qua ti arrivi benissimo, non c'è problema. Vabbè, in linea d'aria noi già siamo vicini lui. E vabbè, ricordando come modulazione va bene, già sta spingendo. Anche la radio è buona, è chiara? Perfetta. Manca Cuba, tanto che quel malattolino, però anche quello lì andava bene, c'è un'altra storia, vedrai che quando le metti il microfono amplificato è ancora più bella. Allora, lo strumento qua mi dà 5 watt con picchi positivi. Ehi, stazionario aumentate di solo con 5 watt. Aspetta che guardo. Siamo a uno scarso, uno e uno scarso. Ehi, allora già va bene, la voglia. Bene, mi stava dicendo sullo smitter che non è molto preciso. Che cosa non è molto preciso? Mi stava dicendo Marcolino che lo smitter qua dell'apparecchio dice che non è molto affidabile. Ah, e a futtidini, cosa te ne frega? Frega, te ne portate, funziona bene la radio, riesci bene, a futtidini la segnale. Super K. Cos'è, che malacchino è? È un super, non so cosa, con il frequenzimetro digitale davanti. Super Jup, sì. Tipo Superstar, lui tipo il Typhoon, o l'altro che come si chiama, quello c'è il frequenziometro. È come il Pluto, Luke. Al posto di essere nero, davanti è cromato. Ah, ok, bello. Me la parico. Io ascolto, sì, diciamo che ha un po' di... forse mai, se magari è il microfono normale. Il microfono normale stai usando? Eia, sì, è quello suo originale. Ehi, vabbè, dai, comunque già va bene, non è... già abbastanza comprensibile. Ehi, a voglia, sì, già è buona, dai. Bene, sto leggendo il suo manualino in spagnolo. E cosa te ne fai di tuo manualino? Cioè non è che c'è scritto davanti alla radio cosa sono i pomelli, cosa vi va. Certo, non è che sia un computer, no? vabbè, ma sono curioso, se vuoi ti dica. No, perché cazzo che hanno tirato una cosa, devo leggere nel forum, devo leggere qui. Cazzo fa 4 pomelli, non è che non ci assai, Già lo so, Massi, però vabbè, è semplice curiosità, l'ho fatto da sempre, ogni volta che mi è entrata in mano roba nuova l'ho fatto e quindi lo sto facendo anche adesso. Vai, pisce cocca, di vai. Chi è questo della Croazia? Non lo so. Da te, No, ti sto dicendo, non ho sentito niente io. L'antenna devi cambiare, devi mettere quella più piccola che ascoltavi meglio. Ho sentito dei tedeschi sul 19 in banda laterale. Ho capito. Adesso guarda il 45 se c'è propagazione. Com'è la frequenza del 45? 27465. Ok. Guarda dove c'è scritto tutte le bande. C'hai un pomellino dove c'hai le bande, giusto? Sì, quello me l'ha spiegato Marco. Dovrebbe essere proprio la manopolina dimmer. Ma cosa dimmer? Nel dimmer te l'ha appena detto Claudio che cosa serve. Ti abbassa l'intensità del frequenzimetro dello smitter, il dimmer. Guarda, nella manopolina delle bande c'è scritto A, B, C, D, E. No, qua non c'è... Massimilia. Ascolta, a fianco al pomello dove c'hai tu AM, FM, quella roba lì, c'hai le bande, giusto, nell'altro pomello, o prima o dopo, prima comunque avrebbe essere. Aspetta, guarda, ti mando una foto, ok? Io ce l'ho la foto davanti, ma non è al canale questa radio. Ce l'ho la foto davanti già, non c'è bisogno di mandarla, me l'ha mandata ieri. Ma l'hai mandata ieri, ascolta, guarda dove c'è. Dove c'è. Prova a girare quel dimmer, guarda, ti dice, ma non penso siano lì i canali. Aspetta. Sì, lo puoi fare anche mentre stai parlando. Mi senti? E io. Allora, come giro la manopolina dimmer? Praticamente cambia la frequenza. Cambia la frequenza? K, sì, fa scatti. 4 scatti. E allora sono quelli i canali. Ok. Adesso tu fai uno scatto verso destra. No, non ci va. Oh Gianni, 40 anni cazzo ce l'ho io nel radio dove c'è scritto dimmer. Dimmer vuol dire abbassare e diminuire l'intensità della luce in tutte le radio. Sì, ma qua no, cioè, è un commutatore a quattro posizioni dove praticamente cambia frequenza. Claudio, ma come fa a dire che cambia frequenza? Te lo segna nel display, scusa. Sì. C'è la modifica lì, Claudio, allora al posto del dimmer dell'intensità della luce gli hanno messo un potenziometro a 4 scatti, lui fa lo scatto e se lo porta già nel canale di sopra, capito? Ma se l'ha comprato nuovo Marco quella radio? Marco l'ha comprata nuovo, il giorno che l'ha comprata me l'ha fatta vedere a me nuova dentro la scatola, mai trattata, che modifica nuova è fatto? Boh, è assurdo. Anche il mio c'ha tre scatti, tre scatti di intensità, ma che te lo segna nel display e cambia la frequenza. Mi sembra una cosa molto, ma molto strana. Molto strana, perché dimmer nel 756, nel 950, nelle radio che io ho avuto c'è scritto dimmer, quello ti abbassa e ti diminuisce l'intensità della luce. Claro, guarda, ti ho mandato la foto, è la radio di sopra, guarda. Anche nel 1909 c'è il dimmer e mi abbassa la graduazione della luce. Nel serpente lo stesso. C'è scritto dimmer e abbassa sempre l'intensità della luce. E lì sicuramente o hanno fatto qualche modifica dalla casa madre o non lo so. Perché io poco fa gli ho detto spostati il canale 45, invece ci detto una faino. Ma quella radio non ne ha di bande, Massimiliano. Non ne ha bande quella radio. Quella radio è una semplice radio, normale. Non ne ha di bande, la conosco bene. È lì che modifica può aver fatto. Marco non ne ha fatto. Dalla casa madre fanno una modifica, cazzo, dove c'è scritto dimmer, mi mettono una modifica dei canali. Non ne ha modifica dei canali quella radio. Ma sei passato poco fa nei canali di sopra, come fa a dire che non ce l'ha la modifica? E chi l'ha fatta? La casa madre l'ha fatta una modifica. Marco non ne ha fatto modifiche. L'ha comprata nuova, ti ho detto, quella radio. L'ha fatta vedere a me, io non te l'ha comprata. Claudio, adesso qua ti faccio un video e poi te lo mando. Non c'è bisogno di video, io poco fa in questo canale ti ho detto manda al Paolo uno scatto avanti e l'ha portato nei canali di sopra. Poi gli ho detto scendi di 5 canali col Paolo, scende nel canale 45 invece si ne torna di roba. Ma sicuramente deve mettere nel canale 5, 27.015, girare il Paolo a destra e lo porta direttamente nel 45. E vabbè, claro, è uguale. Se tu sali di... Adesso se io salgo di canale, poi giro 5 canali bassi, cosa cambia? Sempre 45. Capito. Comunque quella radio c'ha 4 scatti, quindi sono 240 canali. Bombe, ma la modifica dimmer. Ma ne fatto una vera gargata. Rubloffe, sicuramente si è spostato di canale, sta facendo un video là. Ok, là, proseguite che io mi cambio, là, che mi faccio una passeggiata, una giocata a cartasi là, in radio. Ciao, a dopo. Proseguite, io continuo a rimanere con Rix. Ciao Massimiliano, buona passeggiata, io ho quasi finito, e me la svingo dall'altra casa. Massimiliano. Già, mi sa che Massimiliano ha chiuso, se n'è uscito. K, ok, vabbè. Oia. Vabbè, è strana questa cosa. Comunque, anche qua è scritto così, però Marcolino mi ha detto che quello serviva per salire e scendere il canale di sopra e il canale di sotto. Vabbè, dai, una cosa in più. Oh, io non la conosco, non lo so, non ti saprei aiutare. Forse magari Claudio ci può aiutare, io non la conosco in manco. Vabbè, già non è un problema, dai, piano piano già. Tanto dovrei sentire Marco, quindi, visto che ce l'aveva lui, l'ha usata, quindi mi saprà sicuramente dare. Perché adesso veramente sì, sul manuale c'è scritto una cosa, però in effetti quella monopolia fa altre cose. Vabbè, non è un problema per adesso, là. Sì, ma nel manuale c'è scritto che ti abbassa e ti aumenta l'intensità del frequenzimetro. Sì, Claudio, conosco io, sì, i dimmer li conosco anch'io. Infatti nel manuale c'è scritto che aumenta e diminuisce l'intensità della luce del display. Però a lato pratico qua su questa radio c'è un commutatore che sale, fa salire e scende di frequenza. Allora ho fatto una modifica. Però dimmer è così, perché ce l'ho anch'io nelle HF ed è così. Vabbè, meglio così se hanno fatto questa modifica, ma non penso che l'abbia fatta Marco. Non lo so, a meno che non l'abbia presa già così lui. Devi sentire Marco e vedere cosa ti dice. No, non è stata mai. Non è stata mai manomessa. Questo me l'ha confermato, quindi e quindi ci credo. Sì, c'è scritto dimmer davanti, però c'è un commutatore a quattro posizioni che sale e scende in frequenza. Su quello non avevo dubbi che l'ha toccata Marco, perché Marco non tocca niente. Quando quella radio l'ha comprata, non l'ha fatta vedere. Capito? Infatti io pensavo fosse un Pluto, perché è uguale al Pluto, gemello del Pluto, precisa identica, solo che c'è la mascherina cromata, quindi pensavo fosse un modello nuovo del Pluto, e lui non ha mai toccato niente, ecco perché ti sto dicendo, sicuramente l'ha fatto chi l'ha venduta, non lo so, dove l'ha comprata, non lo so, però dimmer è quello, ecco perché. Ho detto, non so cosa è dimmer, io ti ho detto l'intensità diminuisce e aumenta l'intensità del display, basta. Però che ci fosse una modifica lì è la prima cosa che sento in tanti anni di radio, perché non so. Va bene, dai, proseguite, io rimango in quel rix. A frappè. Ok, vabbè, giusto per una domanda per chiederti come ti sta arrivando, come il segnale adesso? Guarda, sta arrivando quasi 2-3 punti S in più, vabbè, i watt sono di più, però c'è i picchi positivi molto belli. Praticamente da 9,15 vai a 9,20 modulati, quasi 9,20 modulati, anche di più, la radio è molto bella. Io ti consiglio di lasciare quel microfono, che sta andando veramente molto bene. La radio è bella corposa, bella, bella forte, non c'è bisogno di mettere niente. Va benissimo, ok, grazie della dritta, dai, casomai ci sentiamo dopo. Vabbè, dai, ci sentiamo, ciao a tutti. E beh, Lu, solo io e te siamo rimasti. Ciao, Cla, sono ancora qua io, dai. Sto cercando di cambiare un pannello di computer, di un portatile, so che ce ne ho due, sono danneggiati lo stesso. Ok, allora ti lasciamo volare, ma stai cambiando la cover o il display? No, proprio il pannello LCD. Ah, è capo, ci ho avuto anche io a che fare qualcosa del genere, insomma, non è così semplice, dai. Ah, fammi un yugo, Meglio per te, allora. Meglio per te, sì, l'ho fatto io per il mio tempo fa, ho praticamente riesumato da un amico che me l'ha regalato un vecchio HP e mi sono divertito a sistemarlo, a cambiare il processore, il RAM e tutte cose, me l'ho fatto da solo, ma giusto per soddisfazione, mi ce l'ha ancora, quindi va benissimo. Mamma mia, che computer vero HP. Il HP diciamo che è un buono perché gira bene, funziona bene, ma c'è il problema della scheda video. Con questo portatile che insomma è abbastanza adattato, ci andava a suonare, ci attaccava la console, poi siccome l'attacco FireWire che a me era molto utile per acquisire il video in alta qualità era l'ideale, capito? Adesso se vai in giro e cerchi un portatile con la porta FireWire non la c'è più. Perché è un po' vecchia. Lo so, però la porta FireWire per il video è fondamentale, capito? Poi sì, se ci sono gli accrocchi USB, però non è la stessa cosa, il flusso di dati è completamente diverso, la qualità è nettamente migliore. Ah, qual è? Tipo quella HDMI, simile a quella? No, è molto piccola, come lo spirito è molto piccolo, sembra un micro USB, però un po' più grande, capito? Ah, forse ho capito quale sta dicendo, sì. Se non erro è praticamente poco più grande di un connettore di un telefono, giusto? Sì, è appena un po' più cicciotto, capito? È piccolo, però rimane appena più alto. E ha più compreso, dai, ho capito. Ha più capito. Vabbè, dai. Cosa vuoi fare? Ti manda per un master. Sì, ho un Acer, va benissimo. Il mio è da 17 pulli. 17,2. No, quello che io è più piccolo. Sarà... Forse quasi 15, dai. Però molto spesso per pulirmi la pentola. Ed è un bijou. Quando lo tiene conto. Rimane dalle 9... Fai 9:30 di sera fino all'indomani acceso. Kappa, cos'è Asus mi ha detto? No, Acer. Ah, Kappa, ok. Positivo. Allora io mi da casa di Daniele. Lì dobbiamo fare un lavoro con un amico. Ma c'era anche Daniele? No, c'era la macchina parcheggiata. Ah, ok. No, infatti... Mi sarebbe piaciuto sentire il suo parere su questa radio, già entrerà, dai. Ma tu c'è amico di Daniele, uscivi con lui prima? No, ho capito, scusami. Ho detto che se sei amico di Daniele uscivi con lui prima. No, negativo, ci siamo conosciuti in frequenza. Allora, pensavo fossi un amico suo. Mi salutava, ogni tanto quando becco mi saluta. No, ci siamo conosciuti qua, Lu. Ma tu hai tanti anni che non entravi. Abbastanza. abbastanza. Vabbè, io mi ricordo, forse sei entrato qualche anno fa. Ma prima, no, non ti ho mai sentito. Quando sono entrato io, vabbè, avevo conosciuto a Claudio, Gianni, ma ti parlo, forse 92, 90, non mi ricordo esattamente. Perché entravo di nascosto dalle baracchine di mio fratello. Sì, vabbè, io ti parlo di un sacco di anni fa, poi ho giumulato tutto, poi qualche anno fa sì, mi sono fatto vivo, poi sono sparito e niente, insomma, a base di un rado, e niente, tutto qua. Se c'è la passione, uno, anche se ha tablet, computer, ma la giusti, se il baracchino gli piace, vai tranquillo che continua a modulare, vabbè che c'è poca gente. Già, vabbè. Non era la stessa cosa di prima, vabbè, ogni epoca cambia e va bene così adesso, dai, comunque, meglio pochi ma buoni, dai. È positivo, dai. Andare. Super Jopix 2000, che nome, ragazzi, successo, ragazzi. Vabbè, adesso, più che altro devo prendere dimestichezza con questa cosa dei canali sopra e canali sotto. Sì, te lo piano. Quanti anni ci sei in frequenza? Vabbè, in tutto, là. Quanti anni fa si è entrato? Guarda, io mi ricordo avevo iniziato con un portate, stiamo parlando di metà degli anni 80. Ci sono rimasto un po', poi mi avevo comprato un 23 canali delle radio. L'ho tenuto un po' e poi ho staccato tutto e niente, e ciccia, e sono sparito. Allora sei più vecchio di me, dalla voce sembrava che avessi la mia età. Sono del 65, 65. Sì, sei molto più grande di me, sono forse più o meno la mia età. Dalla voce non sembra comunque. Io, classe, 1974. bene, da. È quasi 10 anni di differenza, dai. Circa, sì, 10 anni, dai. Ascolta, ma se si può dire, il nominativo di tuo fratello? Il mio fratello trovava Lupo di Lupis. Così adesso, in questo momento, la mia memoria non è molto in forma, dai. Sì, ma già nati che manca, sì, ma un bel di anni. Io allora a quel tempo stavo proprio dentro il centro storico e quindi insomma modulavo lì, dai. Ma ti ricordi di... aspetta, Apache blu, Fantomas. Fantomas già me lo ricordo. Apache blu, non mi dice niente per adesso. È un corriere, allora, poi Roberto Bandito, te ne ricordi quelli? Bandito sì, Bandito già me lo ricordo. Anche Roberto c'era tanti anni, sei continente, giornali. Un bel ne mancano. Vabbè, io ho iniziato alla fine con Claudio, Gianni, così, gli altri. Poi è subentrato Massimiliano, adesso dopo di me, perché io Massimiliano tempo addietro non l'ho mai sentito. Poi vabbè, tutti quelli più vecchi, diciamo, da Giulio Dollaro a Gio Maria, Figaro, Mario Mao, tutte quelle persone lì, Tore Alan Verde, forse li conosciuti. Vabbè, quelli vecchi vecchi non c'erano, li ho conosciuti, perché me li aveva nominati gli anni dopo il rum. Kappa. No, vabbè. Anche la memoria già tradisce ogni tanto, Io adesso ci sono alcuni nominativi che magari mi sono rimasti più impressi rispetto ad altri, però ti ripeto, adesso in questo momento molti non me li ricordo. Vabbè, tipo adesso mi fai il nome di Claudio, il nome di cosa è, se lo ricordavo tutti, perché lui ce n'è tanti anni, anche di Walter, capito? Sì, però quello che ti voglio dire io, ci sono magari altri nominativi che per altre congetture, per altre situazioni diverse, magari ti rimangono più impressi nella memoria, capito, piuttosto che altri, non per cattiveria, cioè perché magari perché è successa una cosa particolare e quindi te li ricordi più, te li ricordi prima, capito? Positivo, certo che sì, vabbè, ormai i tempi sono passati e continuano ad andare avanti. Prima era un'altra musica, adesso c'è poco e niente. Ma a notte che ogni tanto metto la portante, ma io sento che fa schifo. Lasciamo perdere, Io aggiungo già che invece di buoni portanti che non si beviamo mate, devo solo cucinare i buglioni, scusando il termine. Vabbè. La noia fa questo e altro. Ma non ci si comporta così, perché alla fine poi uno... Già, ripeto, non c'è nessuno, ma uno vuole entrare a farsi delle chiacchiere, poi c'è dentro le imbecille, si vuole fare un acco. E prima le facciamo queste cose, la voglia. Se no te mi hanno accusato, ma comunque a me non me ne frega niente, non sono in bocca a fare un acco. Non ha senso, perché poi se uno si mette d'impegno, magari ti va nel posto, magari sale qua e lì che è Lucca, per dire. Ma non me ne è mai fregato niente, poi me l'ho sempre accusato. E credo troppo confermare. Vabbè, già lo sai che molte cose lasciano il tempo che trovano, quindi, cioè, personalmente, ti ripeto, non ci metto più, tra virgolette, l'appetto che ci mettevo prima, capito? Quindi non, cioè, fondamentalmente non me ne fotte più nulla, dammi, cioè, poi, chiaramente, uno si sposta, fa altro e ciccia, però non me la prendo come prima, dai. Sì, ho capito, però se uno ci vuole fare delle chiacchiere, vai, un amico, non se lo può fare perché c'è l'imbecille. Claro che sì, chiaro che sì. Su questo non ci piove. E vai, non sanno cosa fare, dai. Beh, esci entro le frequenze, non fare le balle. Vabbè. Siamo i sani, come dice qualcuno, dai, futti dini. A voglia. E siamo musani, siamo sana. Ho in sottofondo la banda con la processione, no? Che non so dove sono diretti. Ma lì, in zona... sei vecchio? Sì, zona Porta Sant'Antonio. Di compreso, ma la papà un gugidio formato, di mia cognata, questo computer. Smanetta. No, io mi sposto un attimo. Ti fai un comodo, già, tra un po' vado via, dai. Kappa. Attenzione 10, cambio, c'è qualcuno? E beh, è all'ombra. Poco fa ero in zona dove lavori tu, dai. E dietro c'è mio fratello. Ma non ho capito lui, cosa ha detto? Abbassa un po' il volume del microfono, si compra di lui. Ho detto che mezz'ora fa, circa, un'oretta fa, là, era in zona dove lavori tu. Ah, ah. Con chi eri? Con Carletto? Sì, è Carletto, vero? Cava, cava. Sì, dove lavoravo io, non ci lavoro più. No. Sì, sono in malattia, non sono in condizione di tornare, non lui. Non muovo più le gambe, sto camminando con le stampelle. Via. Sono venuti dei dolori fortissimi ai femori, alle teste del femore, all'omero. Non riesco a far passare i dolori in nessuna maniera, sto facendo mille terapie, ho fatto lastre, questo e quell'altro, non capiscono cosa sia. E allora, come fai? Dico, puoi guidare la macchina, sì? La macchina già la guido, ma stento proprio. No, lavorare non ci sto, no, sono in malattia. E cosa faccio? Lavorare così, non riesco manco a inchinarmi, rialzarmi dal divano. Oh, i dolori fortissimi. Quello sicuramente sono tutti gli sforzi che ho fatto in vita mia lì lavorando e adesso mi sta domandando il conto, come diceva Lattarino. Ammettati che da buon fisico ti domandano un conto, ma non ricordo sempre adesso quando c'è i dolori. Ah, quello è normale già. Come io con la schiena, no? Faccio l'esempio che purtroppo, ma è successo qua, non la giorno, che purtroppo ogni tanto si mette in moto e il dolore è brutto, forte, insopportabile proprio. E io lo stesso. Questo qui non è un dolore che si può sopportare, non puoi fare nulla. Sto camminando con le stampelle. La mattina quando mi alzo sono con le stampelle, poi la sera un po' mi si allivia, ma oggi siccome c'è brutta giornata, ce l'ho tutto il giorno, ho preso anche la pastiglia antidolorifica, ma non mi vende nulla. E quindi niente. Non lo so cosa farò perché sono sul chi va là, sto cercando di prendere la pensione se ci riesco e andarmene del tutto perché non ce la faccio più. È un casino, ti capisco. Forse è l'unica, almeno, tanto ormai gli anni te li sei fatti, non è che, a meno che ti danno un lavoro più leggero, cambi lavoro magari. Cioè, non è un lavoro che ho tipo, usciere. Luca, mi stanco subito, io ho bisogno di fare due passi per tornarmene a letto, sdraiarmi, adesso sono sdraiato per lì, perché non ce la facevo più dal dolore. Mi hanno trovato praticamente artrosi alla spina dorsale, reumatismi, artrosi, eccetera. E niente, quello lì che mi fa, mi ripercuote nelle gambe, perché la parte bassa che è piena di artrosi, e quindi... Infatti dicono artrosi importante, si vedono artrosi importanti nella parte bassa della spina dorsale e quindi mi prende le gambe, capito? Ho capito, certo, siamo accorti. Casino. Oh, l'altro giorno mi stavo guardando la telegira corrida con la sarna e ho visto a te. Io mi dicevo, no, c'era questo qua che riprendeva, c'era una specie di telecamera strana, boh, fuori di capo. Cioè, come lui si abbassava, questa cosa, tipo, c'era un tubo in mano, no? La cosa un bel strano, un po' di fili, bella, mi. E la telecamera pure si sollevava, secondo ormai si metteva nell'alto, lì si abbassava, per prendere dall'alto, oppure dal basso si metteva in alto. Fuori di capo stava, chissà cosa cosa, un bel di là. La giraffa sarà. Sarà là? La giraffa, quella che chiamano giraffa. E come sollevava si abbassava da solo. Sì, la giraffa, quella che riprende dall'alto, gira, fa la stessa cosa che potrebbe fare un'antenna col motore, col rotore, la stessa cosa, gira, si abbassa, si alza, questa qui più si alza si abbassa, più gira attorno. Ah, ho capito. Allora c'è malattia già, così è. E allora, cosa faccio? Posso andare così a lavorare? Non ce la faccio a fare nulla, non ce la faccio a inchinarmi. Cazzo, come mi inchino, mi viene un dolore, mi blocca la schiena, capito? Sto pensando se non ho qualche... come si chiama? Ma non mi viene adesso. E... inclinazione della vertebra, roba del genere, qualche cosa così, ma loro dicono di no. Adesso mi dovrò fare qualche altro esame, vediamo un po'. Approfondisci già. Infatti, sì, solo che per fare l'esame che devo fare, qua ci vogliono 3 mesi, bisogna andare a Nuoro a farlo, a risonanza. La risonanza magnetica? Via. Ho capito, già. La vita purtroppo ti aspetti di tutto e di più. Cazzo, ma cioè, non ci avevo nulla di colpo, mi è venuto questo dolore forte al lavoro. Da stare secco, vabbè, sono caduto anche una volta in pescheria, sono scivolato nell'acqua e sono strampato servendo un cliente. Infatti sono tutti quanti entrati dentro la pescheria. No, non mi toccate, c'è un dolore assurdo, pensavo di avere qualcosa, il bacino fratturato. Non mi toccate, ci penso io, non riuscivo a alzarmi, sono stato più di un quarto d'ora in terra, tutti i gatti in Nantu. Detto, lasciatemi stare così, non mi toccate, perché se mi toccate mi rovinate. Poi quando me la sono sentita mi sono alzato, ma c'era un dolore lancinante, non riuscivo manco a respirare. Poi ho passato l'aso, e questo e quell'altro, in un paio di giorni, 2 o 3 giorni mi è passato tutto, non avevo più nulla. Adesso si è risvegliato, col brutto tempo si sono risvegliati questi dolori. Io ho scelto di profetta, già ci sei. E dove eri? In gita stamattina. Ho capito già. Ho detto in gita ieri e ho visto che si stavi dirigendo con la macchina verso la sala di Alghero, mi sembrava, la sala di Alghero. No, a Olbia già. Ah, a Olbia ieri. E così ti è uscito lo scrivizzo. No, accompagnare alle 25 partita. Tanto la figlia. Come si dice? In Austria addirittura. Da 2 ore di macchina ci voglio, da Bolzano all'Austria. Ah. E allora trova cosa? Ah, si è fatto le maestrale. Ah, perché lì in Austria. E si è aperto un negozio di articoli sardi, formaggi, di tutto e di più. Salvatore Maestrale, quello che fa la rettifica del evaporatore? Eia. Ho capito. Aggiungavitti. Prima era in una fabbrica di pannelli solari, lavorando. E stava anche bene. Poi ha fatto un po' di soldi e si è messo questo negozio. Capo. Ma roba sarda, sarda. Lui vende tutti gli articoli sardi. Mi ha mandato le fotografie del negozio anche. Ah, tu sei sempre in contatto? Sì, ce l'ho su WhatsApp, anche Roberto Quadrato mi pare che sia in contatto. Su WhatsApp, pure su quel telefono, come si chiama? Non mi viene come si chiama. Quell'applicazione, azione. Anche lì. Vabbè, qua va chiusa, qua già andava grande. Ma non ho chiuso l'applicazione. Quale applicazione? Quella che c'è CB Talk. L'hanno chiusa? No, te lo sto chiedendo io, hanno chiuso quell'applicazione di Oce ancora, perché non sto più entrando? Manco io, ma penso che sia aperta, aspetta il controllo. No, c'è. Sono mio zio che fa la chirurga con la quinta elementare qui alle Moline, assicurati. Mi sono entrato. C'è il dual mic, una volta non vedo, ma ammazza. Quello lì va bene perché non si vuole mettere l'antenna in macchina e vuole modulare dalla macchina. E si mette quello lì, c'è quello lì. Ci metto. E c'è un'altra cosa adesso, apri il link. Non lo so se col Bluetooth si può sentire quello lì. Non penso però. Perché la macchina c'è il Bluetooth e praticamente se metti il Bluetooth lo senti nello stereo, dai. Proprio nelle casse dello stereo. Mi senti? Infatti ultimamente, basta che vai al pronto soccorso per un'infezione, a momenti di farlo accettare, vedete? Tutta l'emissione su Bissell. Buonasera, eh. Ciao. Sì. Un lume è entrato, sì. Gian. Sì. Ma mi senti? Ti sento, buonasera. Come sto chiamando, allora? E allora. Beh, c'è Luca che è su CB Talk, c'è qua, boh, no, non si recupera di più nulla. Certo. Andare. Hai visto il vento che si è sollevato di colpo? Sì, allora si è alzato il vento quando stava rompendo. Poi si è calmato e adesso nuovamente c'è un pochino di vento. E quando escono i corrotti si alza, così li tiriamo su d'ora. Allora. Oia. Io sono andato a vedere se c'era qualcuno, mi ha risposto Luca. E adesso sento tutto, dai. Speriamo che continuino a entrare. Avanti se c'è qualcuno che vuole entrare, cambio. Buonasera. Buonasera a lei, avanti. Lubrofetta, sono io. Ehi, Lubrofetta, come va? Mi è piazzata questa antenna contro il vento. L'antenna già è sul terrazzo, c'è una radio nuova attaccata, ditemi cosa ne pensate, 1, 2, 3. Già va bene, sì, non posso dire che vada male, va benissimo. L'altra però mi sembra più forte, che radio è questa qua? Come segnale già? Come è cambiato qualcosa? Non me lo dire perché non c'ho occhiali a portata di mano e ti dire una fesseria. Te lo dico quando sono sicuro di poterti dare un segnale come si deve. Andavè. È un simil Pluto. Un Pluto? Un simil Pluto, grigio argentato. Come sarebbe a dire simil Pluto? Non lo conosco. Super Jupix 2000. Ah, ecco, Jupix lo conosco. Gaba. Hai comprato quello nuovo? No, non ho comprato. Lo sto testando. Me l'hanno prestato per provarlo, per tenerlo, insomma, qua acceso, dai. Ehi, fai girare che un attimino che attacco l'altro apparecchio, che questo qui ha già girato abbastanza, adesso faccio girare l'altro. Come si chiama? Super Jupix. Super Jupix 2000. Guarda, fatto una volta, cosa? Super Jupix 2000. Hai mai scritto Jupix, una K? E J, J, O, Otranto, Palermo, Imola e poi c'è la X finale. Va bene, ciao Gianni, non bloccare. Ciao Tino, buonasera. Senti qualcosa di differente sia a livello di segnale che di radio? Guarda, di radio credo che non abbia cambiato granché. Di segnale siete tutti oltre i 9-10, quindi questo devo accendere l'altro per valutare. Aspetta, dai. Vabbè. Devo giusto capirci un paio di cosette e poi... Insomma, devo prendere familiarità con i comandi, dai. Allora, segnale 9-5 con picchi positivi a 9-10 hai, con l'altro parlo. E la radio è uguale. Il mic è il suo originale, quindi dovrebbe essere sì un microfono dinamico. E devo fare le modifiche per poter attaccare quell'altro amplificato. E può dipendere anche dalla colonnina, più o meno piccola, grande, con meno watt, eccetera. Comunque stai dicendo bene, va benissimo come segnale e come radio. Bene. Adesso è che se entra in ruota Eugenio sono curioso di sapere se lui insomma, visto che è più lontano, per vedere se nota miglioramenti, sicuramente sì. Ma quella radiale c'ha? No, la Ringo no, c'ha due giri di bobina in alluminio. Capito. ma molto meno dell'altra. No, andava bene, però se sempre fa qua, c'è come segnale. La radio, vabbè, meno male è uguale. Un po' più bassa, mi sembra questa, l'altra da fuori. Ma l'antenna risulta un bel segnale. Perché sto usando il microfono dinamico della radio, quello originale. Per attaccare il mio, quello amplificato, devo modificare i piedini del connettore. Ah, no, puoi fare uno spettrone. Puoi fare uno spettrone dove puoi usare l'uno e l'altro. Ma mi mancano gli spinotti adesso. Tanto nella mia radio ci ho attaccato l'originale, per cui quello amplificato adesso è da solo. E quindi lo voglio modificare. Comunque è abbastanza tanta come radio, se per essere un microfono normale facciamo con questo volante al microfono. Per essere con un microfono normale va benissimo. Però chiaramente con l'altro risultava più alta, giusto? Sì. Dai, mi devo lasciare che cercare che stavo bugnando, dove serve andare a fare i bisogni, dai. Mi devo lasciare. Ci sentiamo magari più tardi, se non vuoi. Ciao. Kappa, già si sentiva mugugnando, dai. Vuole uscire, io portalo. Ciao, sì. Lo sento anch'io, ti volevo chiedere a vedere cosa lo fai, so. Oh, già. Yeah. Cosa hai, Marco? Sempre duri, senza scherzare, un po' così, dai. Ho già una curiosità, come lo trovi, più o meno rumoroso dell'altro? A livello di rumorosità di fondo? No, guarda, è molto simile Marco. Più che altro, come stavo dicendo a Gianni, a livello di suono, con lo stesso altoparlante esterno, praticamente questa ha un audio più scuro. L'altra, la mia radio invece tende a essere un po' più brillante, ma stiamo parlando di differenze veramente appena percettibili, cioè va bene. Sì, l'ho notato. Allora, i 2-3009 hanno una ricezione un po' più acuta o brillante, che vogliamo dire, no? Quello, a differenza degli altri, ha una ricezione un po' più con toni bassi, no? Sarà il tipo di colonnina che hanno messo. O la circuitazione, non lo so. Sì, io guardo di tanti baracchini che c'erano qua, erano tutti diversi di ricezione, di tonalità di ricezione, non ce n'era uno uguale all'altro, o quasi. Vai Tino. Mi hai beccato che stavo sbadigliando. Va bene. Comunque vabbè, come segnale sei rimasto uguale, perché l'ho notato. Dall'altra volta era 9.10, adesso sei 9 con picchi positivi a 9.10, quasi 9.15, quindi qualcosina è migliorato. È probabile, sicuramente, che questa radio spinga appena appena di più, dai. Probabile, dai. Va bene. No, ma poi, insomma, siamo tutti segnaloni, non è che... Ho già, quella te l'ho tarata a 5 watt pieni in AM, portante muta, poi quando moduli o fischi ne dà 6, forse anche 7, qualcosa del genere. Mi manda laterale, sono 12 fischiando, 12, ho visto che di più non va perché è mono finale quello, ero convinto che fosse doppio finale, più il prefinale, invece è un solo finale. E invece c'era una versione addirittura con due finali, che però in Italia non è arrivata, credo. Eia, poco fa sul 20, 22-23, in banda laterale, non so se erano russi, greci, roba del genere, insomma, sentivo conversare, dai. Eia, anzi ti dirò che la propagazione è scarsa e comunque... rispetto a come era le altre primavere, non lo so, se mai arriverà quest'anno la propagazione. Poi ricordati quello che ti ho già detto, no? Siamo nel punto buio delle macchie solari, il picco solare ogni 11 anni, più ci si avvicina al picco, più la propagazione è bestiale, così è la regola. Bene. Ascolta, da te invece com'è la questione? Allora, prima ti ho attenuato, Eh sì, comunque uguale, averne 4, averne 5 non cambia nulla. C'hai più picchi di modulazione però, attenuato me ne accorgo di più, c'hai più picchi. Capito. Dai, riprendete un po' voi. Riprendete, c'è la Luca, impare Gianni, vabbè, è andato a portare il cane, eccetera, eccetera. Riprendete voi. Hai una buglia, Marco, scaletta matta. Sì, ma guarda, c'ho il piatto ancora pieno davanti, non a giugana. Anche ieri c'era del buonissimo pollo arrosto. A forza ho dovuto mangiarmi una coscia di pollo. E oggi la matessa è grossa. Vabbè, dai. No, io sto facendo una carrellata di radio, giusto così, per fare entrambe le cose, dai. Ma ci sono questi allucinanti, anche questi colt che sicuramente sono smanettati a mille. Non si può pagare una radio 756 euro, un Milan Aran 48, oppure uno, come si chiama, quello Colt 8000, mi sembra che sia, allucinato, non so chi è il pazzo, tra virgolette, che voglia comprarsi una radio del genere. Cos'è il negozio per caso? Delta One Shop? Se esiste ancora, eh? No, sono su eBay. Gente che mette i propri apparati così per cercare di venderli, ma a quel prezzo lì mi sembra troppo eccessivo. Poi, vabbè, non lo so. Se ci riescono, buon per loro, buon per loro. Ma elaborati o nudi e crudi? Perché ho visto vendere Alan 48 old, originale, no? Proprio il modello anni 80, tipo 400 euro, senza modifiche, nudo e crudo. Capisco che possa essere un mito, ma cioè, sai quanta roba bella esce un 400 euro, magari con... Vabbè, è questione di gusti, è questione di gusti, di scelte. Ma io mi chiedevo, no, invece quelli elaborati, quale sarà il costo dei componenti, tipo il doppio modulatore, che non so se sia l'M80, la scheda Echo, cioè componenti quanto costerà? Perché se li fanno pagare 500.000, 600 euro, eccetera? Cos'è, tutto a mano d'opera, l'anima. No, vabbè, credo che una scheda Echo costi intorno alle 40, 45, 50 euro, non so, è una cosa del genere, perché le ho viste alcune, però in base a che macchina devi montare avrà il suo prezzo. Più che altro non è neanche tanto quello, perché non è che tu prendi una scheda Echo, la piatti e va bene l'apparato, no, devi allineare anche altre cose, il picco di modulazione, devi allineare magari a... Cazzo, un sacco di modifiche sono da fare prima di fare tutte queste aggiungi qua, e magari la lavorazione in sé, che chi è più bravo o chi meno si fa pagare, non lo so. Io sinceramente, sì, tu mi dirai, ma cacchio, cazzo, esce bene in 27, in 45, spacchi quello che vuoi, ma ti stai buttando sempre con le 400 euro, 500 euro, che non lo so, non ho... Io adesso voglio provare una cosa, poi magari mi starò anche sbagliando, però la voglio provare. Poi c'è quello appassionato all'Echo Colt, c'è quello che è appassionato alla camera Echo, al reverbero, ognuno dice la sua, gusti e colori per carità non si discutono, però credo che un apparato normalissimo, se tu ci metti un bel amplificatore, oppure ci puoi anche impostare qualche buona camera Echo che faccia effetto Colt, dell'apparato magari spendi una cazzata in due pitti che hai esterni anziché interni, ecco, poi magari mi sto anche sbagliando, è da provare. Via. Vabbè, se da mettere in camion, magari qualcuno, il 48 preferisce metterlo nel camion, no? Tutto elaborato. Se da mettere a casa, con quel prezzo lì, 4,30, 4,40, purché in buone condizioni, revisionato, capito? Per casa. Poi, vabbè, ognuno, cioè, gusti diversi. Io preferisco i veicolari, chi preferisce stazioni base e tante altre cose, dai. Vai Luca. Ah, poi non ti viene anche meglio a volontare, sono i miei che devono ascoltare. Ci sentiamo dopo, vai, riprendo dopo, riprendi Luca. E io a te. Luca, ci sei? Ehi, aspetta un attimino che stai scrivendo con un tipo per il pannello, l'ho procurato. Io dico, motivati dagli enti a vendere un PC rosso, cioè non funziona, c'è 70 euro. Cazzo, li prendo io a 100 euro, 150, abbastanza buoni, ma fanno anche 120 euro, 130. Motivati quindi tu un computer che non funziona, senza il rischio poi anche. Cosa da fare? No, falso allarme, sono ancora qua. Via. E beh, Lu, io una volta la porto bello, anni fa avevo visto un computer in vendita, no? Sai, la torre, no? Poi ho cominciato a guardare, cioè ho aperto il coperchio, praticamente dentro non c'era né l'hard disk, hanno tolto hard disk, scheda video, mi pare pure le RAM, cioè praticamente stavano vendendo una scatola di metallo con una scheda madre, basta. E a un prezzo, infatti ho detto, questo è scemo, questo è scemo. Ma fanno fritti, cioè, cosa da fare? Tipo stesso, vabbè, mi sono infinocchiato io lì, e avevo venduto tre computer rotti, funzionanti, uno a cielo non si vedeva, insomma, completi di hard disk tutto quanto, poi vado a smontarli, da 55 euro ho fatto scendere a 30, poi mi ha attaccato gli alimentatori, di cui due funzionano e l'altro l'ha bruciato. C'era un hard disk solo, poi la RAM di bus, quella 512, un casino, vabbè, lì alla fine ci ho buttato 30 euro, e vabbè, ormai me l'ho rischiata, ho detto vabbè, là, io 30 euro me li porto via, poi lui mi aveva detto che erano buoni, cioè che c'erano questi buoni, questi pezzi buoni, nada. I pezzi buoni se li tolgono, poi i computer sono talmente innovativi che, mamma mia, anche se lo compri nuovo dopo un paio d'anni, esce il nuovo sistema operativo, aumentano le RAM, no, non ne seguo più, infatti io computer mi sa che non ne compro più, io prendo solo smartphone, quando mi si rompe, l'altro mi si era rotto, io non cambio smartphone ogni 6 mesi per moda, quando mi si sfascia ne riprendo un altro, perché alla fine il 90% del lavoro lo fai dallo smartphone. Posso anche stampare dallo smartphone, cioè non ha più senso il computer che sia fisso o anche portatile, per me non ha più senso. Insomma, infatti alla fine io riparto cose che poi alla fine non è quale va a cambiare. Ti faccio un esempio, un S5 si è rotto il pannello, cioè è rotto, ho fatto un cambio, questo mi ha dato l'S5 è rotto, gli ho riparato il computer, mi è costato, guarda, 100, più di 100 euro. Io ho venduto 120 euro, anche la batteria nuova ho comprato, per dirti, no? Cioè, i telefoni, questi di ultima generazione, tre cadono in terra, non è vale la pena ripararli. Io c'ho un SSI che mi è caduto in terra, riparo ci vogliono, facendolo io 200 euro, cambiando anche la batteria, circa 200 euro, portando al tecnico 320. Vabbè. Poi anche non conviene nemmeno avere internet a casa se ti fidi con queste offerte 50 mega. Io ho provato in tutti i modi, guardando video tutto il giorno, YouTube tutto il giorno a scaricare in un mezzo di questi 50 mega, non ci riesco. Vabbè, lui è casino, Marco, cioè sai cosa, anche faccio l'esempio dei televisori, ma si brucia la scheda d'alimentazione, cosa ci va a spendere, 50-60 euro, come me ne ho regalato uno per dire, qualche anno fa, un Panasonic che è grande, 42 pollici, al plasma, è nuovo, e ci ho speso, allora perché c'era quanto volevo per ripararlo, no? E gli ho detto, va, padrone, tipo 150-160, no, l'ho riparato, vabbè, la tieni, te l'ho detto, no, sono riparato io, ci ho speso 90 euro, mi sa, se non mi ricordo male. Però per dire, non ne vuoi più la candela, sono queste cose, una volta che si rompo le butti, perché poi magari adesso ripari la scheda di alimentazione e poi ti si spacca la scheda, l'altra, la scheda video, la chiamo così. Eia. Così è. Vai Gianni. È tutto è tutto ben pianificato e calcolato, come l'obsolescenza programmata. Ma anche gli elettrodomestici e altri aggeggi vari che una volta che superano il termine di garanzia si facciano. Sì, sì, ma infatti l'obsolescenza programmata è... Poi io chiedo, ci fanno i conti in tasca, no? Adesso stanno vietando sulle spiagge di andare persino a mangiare col piatto in plastica, con la forchetta in plastica, manco la lasciassi lì, no? E poi fanno lavatrici che nella... come questa nostra, no? Io non lo sapevo. Ha la vasca saldata, no? Saldata. Se ti si rompono i cuscinetti della... dal cestello, decidi di buttare tutta la lavatrice, addirittura la pompa di scarico incorporata dentro la vasca saldata, mentre una volta la vasca aveva la guarnizione, no? Aveva i dadi, viti, no? Aprivi, cambiavi quello che devi cambiare. Infatti praticamente ci fanno essere ecologici da una parte, e voglio vedere come smaltiscono tutta questa roba, lavatrici, televisori, dove se li mettono? Oh, Tino! Scusate che metto, guardo una cosa al cucino, riesco a ricordarmi un appasso dove devo cercare. Sono in Corrix, dai. Eia, ti. Oh, ti devo far vedere un video già. Purtroppo non me lo manda. È un video di VX, no? È la veduta, la vista che c'è dal terrazzo, no? Dal terrazzo quassù. Però è un formato AVI, no? E il codec è di VX. No, non me lo fa mandare con WhatsApp. Non lo so perché. Non digerisce il formato. Oh. È probabile. È probabile, è questione di codec, roba del genere. Sicuramente. Sì, per quanto riguarda tutto quello che si produce adesso è praticamente uno, perché poi alla fine gira che ti rigira anche i materiali praticamente ricavati dagli elettrodomestici rottamati e tutto questo genere praticamente in qualche forma ritorna alla base, ritorna a chi li ha prodotti. E quindi praticamente poi chiaramente tutto il ciclo che c'è attorno di ricambi, riparatori, roba del genere, quelli praticamente vengono annientati, ma come in un sacco di altre cose. Guarda adesso, cioè, il meccanico prima ti aggiustava le puntine, ti metteva a posto la bobina, ti faceva il carburatore e niente. Adesso ti si pianta una centralina e praticamente è solo chi la costruisce, solo praticamente il concessionario o la casa costruttrice è in grado di poterla riparare. Poi ci sono quelli, vabbè, che gli smanettoni che aprono le centraline e si divertono a ripararle. Ne conosco alcuni di tecnici molto bravi che hanno fatto anche di queste. Eia. Sì, praticamente certe centraline possono costare, che ne so, 150 o 200 euro, ma certe anche 6, 7, 800 euro. Ho sentito follie. E poi non danno possibilità di ripararle. Cioè, come esistono i riparatori TV, dovrebbe esserci anche riparatori di centraline. Però alle case automobilistiche fa comodo vendere l'intera centralina nuova, poi dice, uno se ce la può permettere, se la prende, se non va a piedi, capito? D'altronde lo scopo di ogni azienda è quello di fare i soldi, punto. E beh certo, mi ricordo, ma ti parlo di un po' di anni fa, questo mio amico, questo tecnico, praticamente per conto di un cliente, era riuscito a sistemare la centralina elettronica di, adesso non mi ricordo se era di una Lancia a tema turbo benzina o di una Croma turbo benzina, comunque una centralina elettronica complicata con EEPROM, roba del genere, e praticamente il meccanico o chi per esso gli aveva consigliato di cambiarla e costava un botto di soldi. Fatto sta che è riuscito a portarla da questa persona che conosco, e gli ha sistemato la centralina, aprendola, vabbè, l'ha sigillata, insomma, è riuscito ad aprirla, ha cambiato praticamente un integrato del valore vuole di 10, 20, insomma, 25 euro, che ha messo a posto la centralina. Adesso non mi ricordo quanto gli hanno chiesto per la centralina nuova. Comunque è una follia. Eia. Magari è proprio una fesseria mia all'interno della centralina, può essere un diodo, un condensatore, una resistenza, un piccolo integratino, e purtroppo così è. Certe cose le fanno sigillate. Vabbè, adesso non voglio monopolizzare. Luca, riprendi un po' tu, dai. È lo stesso, TV è tutta scheda, no? Non è che puoi cambiare un componentino, devi cambiare la scheda di ogni sezione, così è. Non ho capito, Marco, scusa. Per i televisori, no. Praticamente come sono i televisori moderni, quelli piatti, tutto a schede, cioè se si rovina un diodo, cioè devi cambiare tutta la scheda, non puoi... Cioè chi è bravo magari lo fa, no? Però la casa madre sempre ti fa cambiare tutto, no? Tutta la scheda. No, allora, il discorso è che se la scheda si brucia come hai detto tu, un diodo, va bene, un tecnico bravo riesce a ripararlo, sa dove mettere le mani. Però se si brucia del tutto, si annerisce, capito? Magari danneggia altri componenti, è un casino, la devi cambiare. L'unica è, la fortuna, molte volte si brucia parte il fusibile, magari poi parte anche qualche altro componente, lo controlli bene, cambia il componente e riparte. Tipo, faccio un esempio, le TV a LED, no? Che magari si bruciano a LED, si spegne del tutto, e poi lo devi smontare e devi individuare il LED bruciato. Non è semplice, io qualcosa l'ho imparato, più di uno. Solo che il discorso è che magari si brucia quello, poi dopo un mese, due mesi se ne brucia un altro, lo devi riaprire, giusto perché sai cosa, devi cambiare tutta la striscia dei LED. Perché una volta che cambi la striscia va bene, ti dura. Però purtroppo quella è già danneggiata, no? Poi col tempo se ne bruciano altri, o magari va a partire un altro, cioè adesso, da un'altra striscia, si brucia un altro LED e ti fa quel problema lì. È un casino, Marco. A me è capitato un tipo, gli ho sistemato, gli si è spento, c'è il televisore, poi mi ha richiamato, si è ripreso, mi ha detto, e cosa ha fatto? Lui ha danneggiato la scheda video, ne ha attaccato, dice che se l'è dimenticato, ha lasciato il cavo davanti, l'ha attaccato, come ha tirato, ne ha attaccato il connettore dell'antenna, adesso non serve più. Poi negli smartphone non ne cambiamo, non ne parliamo negli smartphone, mamma mia. Ho già i tempi della Honda, no palle, la Kawasaki, mi pare la 250, si bruciava sempre il ponte di diodi, no, quello regolatore della corrente. Praticamente aveva delle lette di raffreddamento, no? Un connettore che potevi attaccare e staccare in fretta, e dentro c'erano, mi pare, tre o quattro diodi in croce, no? Era un ponte di diodi, o come lo chiamavano. Perché se li compravi da Fusaro, poche migliaia di lire li cambiavi, no? No, lì erano annegati nella resina epossidica. Potevi scalzare quanto volevi, non riuscivi a arrivare ai diodi e cambiarli. Dovevi comprare la centralina, era, mi pare, roba di, non so se 200.000 lire, c'erano le lire ancora, non so se 200.000 lire, se non 300 pure. No, sono uscito, sì. Sì, mi sono portato, Marco. Chi è che sta mandando un messaggio? Scusa, ne ho 25, aspetta. Io mi sono spostato un attimo. Eia già, dicevo la Kawasaki, no, regolatore della corrente, quattro diodi in croce annegati nella resina epossidica, eri costretto a comprare ricambio, roba di 200.000 lire se non 300. Già lo so, mi ricordo con 750 avevo comprato, cos'erano, gli o-ring delle vaschette dei carburatori, i quattro spilliconici, le bobine di accensione, ogni bobina praticamente era una cioè ogni bobina ne aveva due all'interno, quindi per i quattro cilindri ne ho comprati due, mi ricordo che allora c'erano ancora le lire, avevo speso quasi 600.000 lire. Purtroppo infatti, vabbè, la Kawasaki sicuramente era stata trattata male, ha avuto problemi di vario tipo. Invece la Honda 400 era quasi indistruttibile, non ha dato mai problemi, fesserie, ma nemmeno. La Honda era eterna. Infatti chi l'ha comprata, uno che ha la passione delle moto d'epoca, l'ha fatta nuova di trinca. È impressionante, ho visto le foto. Vabbè, come tutte le cose poi c'è una piccola percentuale che magari è destinata a dare qualche problema. È come per le macchine, per qualsiasi cosa, no? Per televisori, elettrodomestici, ci sono. Ti capita quell'apparecchio che è uscito, cioè è riuscito, ha sembrato bene con i componenti giusti, tutto perfetto, poi magari se sei sfortunato ti capiteggia praticamente la macchina o l'apparecchio o qualche componente, insomma, non all'altezza, e quindi ti crea qualche problema, ma può succedere, dai. Beh, anche comprando roba nuova, qualsiasi cosa sia. Infatti allo smartphone, quando uno lo prende, spera che non abbia, che sia un modello riuscito, cioè che sia un campione riuscito, che non con danni a breve o lungo termine. Sempre una seccatura, poi lo devi spedire, qua non fanno nulla. Almeno per la mia marca qua non fanno nulla. Sì, poi chiaramente, soprattutto, come si dice, la qualità e il livello della componentistica, capito? Anche lì ci sono componenti serie A, serie B, serie C, e sicuramente per prodotti di largo consumo, magari accessibili, economici, useranno componentistica, insomma, dalla qualità, insomma, andatemi. Sì. Io, non sapendo niente degli smartphone, la prima volta sono andato alla cieca proprio, poi qualcosa l'ho letta per cambiarlo. Vabbè, Apple assolutamente, iPhone no, perché quello paghi la marca, è uno status symbol, per farsi vedere, quindi ho detto parto da Samsung in giù. Alla fine, a parità di processore, RAM, prestazioni, Samsung costavano appena di più. A scendere trovavi Huawei, a parità di tutto, no? Un gradino più giù Xiaomi, o Xiaomi come si dice, no? Vedo che se la cavano anche loro, niente da eccepire, funziona tutto, funziona sempre. Certo, vabbè, poi cioè, come ti ho detto prima, no? Il costo della componentistica, la qualità, è come comprare una Panda o comprare una Aston Martin, cioè si va da un estremo all'altro, no? Cioè ci sono dei minimi e dei massimi, e anche lì sicuramente, poi vabbè, a parte il cliché, il fenomeno Mac, insomma, che lì ci mangiano alla grande, come tante altre cose, fondamentalmente. E poi alla fine riuscire a trovare qualcosa sempre con un buon rapporto qualità-prezzo. Ehi, poi per quanto leggo su YouTube, no, ci sono i fan sfegattati, cioè chi ha Samsung dice che tutto resta cacca, chi ha Huawei dice che tutto resta cacca, Xiaomi lo stesso, Nokia lo stesso. Io non sono fan di nulla, cioè a me è importante che il cellulare funzioni bene e duri il più possibile, poi di che marca è non mi interessa. Invece lì ci sono proprio lì haters, no, haters, come quelli che proprio disprezzano a priori le altre marche. Voi chi c'ha l'iPhone non ne parliamo, tutto il resto è nulla. Capito? Siccome non costano niente mica quegli apparati, quelli. Vabbè, che te devo dire? A me fanno venire solo molta tristezza. Cioè, sono molta tristezza, si è proprio triste questo fanatismo, cazzo, veramente per le stupidaggini, quando ci sono veramente cose molto più importanti a cui dare a dare spazio, per carità, qua facciamo perdere. Ci risolvo, un attimo, provata. Stavo tribuando per cercare un affatto, dopo ho dovuto fare, devo mettere in postazione. Sì, stavo ascoltando, quindi non è che... D'altronde la nuova generazione è così, comunque, già, non ti meravigliare. Fabio, dai, riprendete quei saluti, dai. Ciao Tino, ciao Marco, ciao Gianni. Beh, cambio casa. Nel caso, se ci sente dopo, che forse devo risalire, non lo so. Se ci viene mio fratello a fare la puntura a mamma, bene, se no devo salire a casa. Nel caso ci sentiamo dopo, dai, ciao. Ciao Luca, buona serata, dai, ciao. Ciao Luca. Ciao Luca, buon proseguimento, dai. Ci si aggiorna. Eia. Comunque ho già, Ortino anche, a molti può piacere anche il sistema operativo della Apple, dell'iPhone, poi si dice sia più sicuro, molto, com'è quel termine, non semplificato, ottimizzato, ecco, non dà problemi, salvo che non ci siano guasti proprio elettronici, non lo so, io non ho manco visto, non ne ho mai visto uno acceso, ecco, tranne nei negozi. Ma guarda, io sì, l'ho avuto, l'iPhone 5, l'ho avuto ma perché me l'hanno regalato, non perché l'ho comprato, attenzione, io ho sempre avuto i classici Samsung, i classici Huawei, questa roba qua, quelli che sono in commercio più adatti a noi, diciamo, tra virgolette, perché comprarono l'iPhone, insomma, è costoso. Però ti dirò la verità, come sistema operativo mi piace più l'Android, ecco. Prego. Avanti. E la sua che è entrata, sono attesa perché c'è un freno, no? Ehi, ciao già, io oggi sono uscito con un Apollo estiva, ho fatto l'errore, convinto ci fosse più caldo, tipo ieri, e c'era freschetto, e vabbè, tanto sono rientrato presto. E comunque te c'è un poverino, avevo per ragione di pugnare, la cucina. Come l'ho portato giù, ha fatto una bella scarica. Ecco, ha mancato la facciata del vicino. Davvero? Non sai cosa c'è? Che quando dico le cose non mi danno a nessuno. Lui aveva già mangiato, stavamo mangiando capo un collo. E mio nipote, dai, non mette, non mi fai primare, no, dai, ma cosa li fa? Pide la data per questo capo collo, è quello lì che ti ha fatto male. Vabbè, poi ognuno conosce il suo caso. Tu credo che come me l'hai cresciuto come un figlio, che io avevo il coccherino quando era vivo, poi è morto alla tenera età di 11-12 anni, se non sbaglio. Conoscevo i pregi e i difetti della cosa da mangiare, dai. Sì, no, lui è abituato, mangia. Pasta senza sale, stracotta, perché la devo fare stracotta. Tocco l'amido, una volta che tu la cucini, faccio sotto l'uminetto e tu li lavi. Poi li metto, metto di pollo e le crocchette, quelle faccio l'altrane, quelle al pesce. Lui mangia così e va tranquillamente. Se mangia la roba, e gli dà la ragione, è molto delicato questo. Vabbè, però questo perché l'hai abituato tu a mangiare di questo, se no perlomeno io mangerei tutto e di più. No, perché ho provato e riprovato con diverse cose che facevano male. Quello che mi ha detto il veterinario, lui mi ha detto fa una cosa, fare la pasta, e io prendevo la pasta per cane, quella verde, gialla, quella che... No, mi ha detto lascia stare quella, dammi quella che mangiate voi, la stracuci, senza sale, mi ha detto cosa dammi, e poi gli metti le crocchette in mezzo a volte, dei pezzi di mela, dei pezzi di zucchina, bollita, dei pezzi di carota, queste robe qua. Però non devi scavare con la carne, ce li metti, carne di maiale e finito. Non lo so, magari è una tipologia di cane che soffre queste cose qua. Io parlo di cani che ho sempre avuto, io sono anni e anni che ho cane, ho avuto tipologia di cane da caccia e farlo, poi a prescindere bastardini, bassotti a pelo ruvido, pastori tedeschi, maremmano e quant'altro, hanno sempre mangiato gli avanti notti, quindi non sono mai stati male di stomaco. Anche addirittura c'era il cocchino che al periodo delle lumachine sono delle dati per ringhiava. Allucinante, vabbè, rappresentano anche da vedere, però ci sono le tipologie di razze che con le cose non li puoi dare, infatti mai con le crocchette dargli quella al pesce e non li dare con le multivitaminiche, dargli con la monofruttica, perché vi fa male la razza, vi fa vedere del matizio, roba del genere. Infatti magari dipende dalla tipologia del cane, perché no, vabbè, anche io ho avuto molti cani di razza, addirittura li ho avuti anche da comprare da Continente, perché io sono amante dello Spagna Bretto e quindi insomma l'avevo preso anche da fuori, non da cucciolo, già un po' cresciuto, già addestrato, quindi ero appassionato a quel tipo di caccia lì, quindi mi piaceva avere un cane già pronto per poter iniziare a imparare anche gli altri, no? E questi lo stesso, mangiavano il tutto anti, quello che avevo comprato mangiava solo crocchette, e poi già ti abitui anche tu, perché il padrone me l'aveva detto, no? Era nel canile in centro di addestramento, mangia solo crocchette, mi ha detto sì, va bene, già, vediamo. E poi non ne mangi il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno te li mangi. Vabbè, vabbè, se non li fa male, ben venga, capito? Io per dire, c'era anche un amico mio, il Cariciulli, gli dava figli a matti che ammazzavano da quello che mangiavano, gli metteva ossa e mezzo, gli metteva pane duro bagnato con l'acqua calda, poi gli metteva formaggio, le uova delle galline, quelle che si scheggiano, il coso, le metteva al cane. Beh, questi cani, di coso... Aspetta, come si chiamava? Leone, che era un cane bassottino, che aveva messo questo nome per prendere in giro, lo chiamava Leone, ed era piccolino. Non sai quanto è durato? 21 anni. Bella età, no, il massimo che è durato a me mi sembra che era 15 anni. Leone ha durato 21 anni, cavolo, era un cane piccolino e ne tornava sempre col conigo in bocca, era di quelli bravi a caccia. E rimaneva piccolino, però era un macchione. Ecco, Tyson ha già fatto un rasatino di marcia, si trova sempre, tutti gli anni li trova, e va col muso qui torna indietro, perché di marcia sai che dai colpi, come vede che dal corpo qui torna indietro. Allora ho preso con la stampella, ho allargato l'erba e c'era l'unico. Sì, lo conosco io. Vabbè, i miei lo portavano, ci facevano un po' pensando, ma perché il riccio ha lo stesso identico odore della selvaggina, no? Perché essendo... E quindi loro abituati a sentire quella roba lì che io la cercavo, per dire allora la portavo, ma si facevano pensando. Bene, bene. Ah, io riprendi Gianni, lo buffetto. Ega, stavo... leggendo un paio di cose qua su internet, vabbè, tutta altra cosa rispetto agli animali, ai quattro zampe, roba elettronica, come si dice, e niente, adesso mi sfugge, volevo dire un'altra cosa, comunque forse al prossimo giro magari me la ricordo. Avanti Marco. Eia, mi sta venendo l'abbiocco. Gianni, prima mi avevi detto che era morta la... più duro me l'ha detto, mi dice, condoglianze per la tua ragazza. E purtroppo con la vita che faceva non sarebbe campata. Poi, prima le avevano sequestrato quei due cani, due dei tre, perché un cane pare che abbia già azzanato uno d'estate, credo. Caso strano, due giorni dopo l'hanno aggredita, credo fosse un nero, invece era un bianco, gli ha dato una mazzata in testa per rubarle quella collanina che aveva, cioè, figurati. E poi credo che si sia un po' ammalata anche, quindi lì non è più comparsa e poi è uscito sul giornale che era morta. Ma vabbè. Purtroppo. A me quando mi hanno scritto che era morta, io gli ho scritto, sicuramente Marco si è dimenticato di portare la pasta asciutta. Sì, ogni tanto chiedeva qualcosa, solo che, sai così, io non è che vado tutti i giorni o tutte le settimane a Platamona, e non mi veniva male andare a posteria. Oh, è pur vero che quando c'era quella pensilina dice che sono usciti topi, è uscito di tutto e di più da lì. Non è proprio il massimo, capito? Vabbè, i familiari hanno anche detto sulla nuova di così rispettare almeno la sua morte, di non fare più articoli, no, di sparlarne di lei, dicesso che non c'è più, lasciatela in pace. È una tipologia di vita che ha scelto lei, perché secondo me se andava a qualche istituto sarebbe ancora accampata, anche il freddo in Iberia, con quel freddo lì era aperto, immagina il freddo di Iberia a questi giorni. Ma di che state parlando? Di quella che c'era del primo? Quella che c'era la rotonda, quella che si era messa sotto la pensilina del tram. Ah no, non l'ho conosciuta, io mi ricordo che c'era una, lì dove c'era il bar del Delfino, là, diciamo, c'era una casetta fatta alla bene meglio. No, questa qua stava alla rotonda dove c'è quella pensilina del tram, si aveva messo dei teloni e lei dormiva sulla panchina e c'aveva i cani attorno. Quando si avvicinavano tutti i cani abbaiavano e la facevano allontanare. Una volta sono venuti in tre per andare a Taisa, ha giubilato un po' di ruggio e dove direte tutti e tre? Una volta c'ero anch'io già, e sai chi era la più terriosa? Il cane rossiccio. La proteggeva, l'ho capito. Lei deve essere che gli dava da mangiare qualche cosa e loro la proteggevano. Sì, e poi si avventavano sempre contro le macchine della polizia e dei carabinieri, sempre a quelle mi, non lo so, le riconoscevano dal rufiaggio. Io una volta ho trovato a Danielino, quello che vuole, con la moglie, e c'avevano una bambina piccola che si era avvicinata a vederla. E sono sceso dalla macchina, mi sono avvicinato a loro, cazzo, passa questa pattuglia, mi vede avvicinato a loro, e mi bloccano, cazzo, guarda il requisito, eccetera, chiesto i documenti e via dicendo. Hanno pensato sicuramente che stavano a portarmi droga, cosa ne so? Hai una faccia rompia tu, eh? Io? Voi? tutte le donne mi dicono che ho la faccia d'angelo e tu dici che ti raggiungo. Sto scherzando già. Ci pare da lontano che io sono un bravaccio, ui. Se fosse ricattifico ormai. E fatto sta che ci sono rimasto anche male la verità. E poi io con la magliettina ancora dove lavoro, no? E quel carabinieri mi ha detto, ma scusi, dove lavora? E gliel'ho detto, ma è sempre che non l'ho letto prima, infatti dalla maglietta mi sembrava lo stemma di conoscerlo, questo e quell'altro, e dopo comunque mi hanno perquisito, l'ha fatto la figuraccia. Un attimo che una massa. E un'altra volta in Viale Trento, ma le ho viste in cicciabelli, non so se te le avevi mangiate, quelli che crescono nei bianchi, che mangiano i verduri anche. E ci piaceva, le stavamo prendendo, poi stavamo facendo, ce li stavamo mangiando, con questa vecchia è passata la pattuglia della polizia. Io mi sono girato a guardare, questo polizio dice, molto c'è da guardare. E ho detto, io più che ce l'ho per guardare, cosa ne devo dire? Un attimino si sono fermati, documenti, questo e quell'altro, e la prossima volta lo facciamo con prepotente, ma io non sono prepotente per te, io sono risposto a quello che mi ha detto, punto. Lo so, sì, fanno gli stravaganti, magari loro ti fissano, no? Ti fissano loro a vedere se rispondi, no? Oh, poi... Oh, già mi ha capito, che passione. Oh, yeah. Vabbè, dai, sorvoliamo. E purtroppo anche lì c'è gente così tranquilla, e anche c'è una divisa, ma sono un po' meno tranquilli, capito? Un po' attaccabrighe, che cercano, quasi ti provocano per indurti a reagire, a rispondere. E poi si vede che non avevano un cazzo da fare, però se vi hanno, stavano pensando a voi che mangiavate, come che si chiamano? Ciao. Non ce li ho presente già, non ce li ho presente. Sì, la cosa che mangiavamo da così mangiava anche verdure. Ma sono tipo bacche oppure o il gambo tipo i cagaranzi, di cui si mangia il gambo. Allora sono delle tipo foglioline rotonde con seme dentro, da lì esce la Puglia proprio per il Puglia, capito? Dal seme che hanno dentro. Non lo sapevo già. No, io invece mamma mi racconta sempre che quando erano ragazzini, che facevano molto vita all'aria aperta, si mangiavano il gambo dei cagaranzi, no? Però se ne mangiavi troppi, no? Già il nome sassarese, diciamo, rendeva l'effetto che faceva dopo, ti faceva mal di pancia, dovevi correre in bagno se ne mangiavi troppi. Sì, papà, tu cagarà, e poi come era l'altro, pan d'oro, pane d'oro, come lo chiamava, che sembra un pomodorino piccolo, e lo luce c'è un pomodorino piccolo dentro. Poi c'era quel fiore viola, che tu lo succhi e le altre ci mettono il miele, e cose, cioè devo dire dolce dolce. È un uccellino americano, l'ha mangiato, sì. E a buste, una volta ne ho fatto una busta a casa. Non va più a te mettere questi portaccioni, le raccogliete la terra, questo. Il cavolo se l'ha mangiato. E quando erano verdi, sai come lo preservavamo noi? Faccio la bottana. E anche io. Alle ragazze, e poi le leggere bottane mettevo anche l'ago con lo spillo in quella di plastica, nel proiettile di plastica, ci mettevo lo spillo e si riprende, e poi lo tiravo a sedere alle ragazze, ci nascondevamo, poi quando facevano aia! Aio, dai, non si fa, Io gli avevo combinato un po', tu poi questi in greppa, io ce l'avevo tutta toccata, c'erano due manici, la cervottara con tutti i proiettili inseriti nei manici, te ne ricordi com'era, di gomma, e poi come gli animali. Sì, bella gioventù, perlomeno quella che abbiamo passato noi, sì. Che mi ricordo poi mio padre aveva il locale lì, no? in via Margheotti. La zona dove presentavo io era la zona lì del monte, dove c'è la gabbina, vicino a casa di Luzzera, quindi la zona che predominante era via Romagna, via Gazzaretta, insomma quelle vie lì. Da compare, sai quante volte siamo andati col pentolone a prenderci le cose, la panfatta, e la portavamo, noi facevamo servizio soccorso alla calce blu, e a volte per non tornare a cena, così telefonavamo lì a Martino e ci preparava le fave, le iniziate a pisare, e poi ci metteva l'olio santo sotto. E ce ne portavamo giù la croce blu, andavamo col pentolone, ce le prendevamo, ce le preparavamo apposta, telefonavamo e niente, abbiamo sempre preso la roba. L'ho vissuto quel periodo, anzi, le olive. Io mi ricordo quando quintale a cassette, le scaricavamo lì nel portone del fianco al locale dove abitava mia nonna, c'era le scale, c'erano i ciavalli che salivano nel piano di su, e da lì dovevo portarle su io, perché c'era mia nonna, miei zii, mia madre, insomma, che le tagliavano, le preparavano, poi mio nonno giù in cantina le preparava per farle, perché poi erano delle olive che duravano anche 2 anni, non è che 2 o 3 anni, dipende come quanto le voleva fare in conservazione, capito? Non è che la facevi giusto prima di venderle e poi ci guardavano, queste duravano, spoglia, quanto ne ho tagliato. E poi qualche volta sono andato a mangiare anche lì, ho mangiato lì e da tutti. Me lo ricordo bene, siamo andati in Grecia, una trentina di bassoni, lui. Già ci divertivamo qui, oppure andavamo alla Fenicola di Sasso. Con la fa della Genovese, tutti quanti in greppa, andiamo a mangiare paenico, non c'è quanto ci divertivamo. Già ci accontentavamo di poco allora. Sì, ma infatti, prima si giocava di più anche in strada, vabbè, poi la tecnologia ha rovinato un po' troppo, è bella la tecnologia, però ha rovinato un po' troppo anche i giovani di oggi, già sta, li sta rincoglionendo, in particolare con i giochi. Vabbè, dai, fai girare, che sennò rimane monotona la cosa. Gianni, Lubrofea, io, dai, hai visto la tecnologia, tu. Guarda, io sono arrivato, ho iniziato a lavorare in televisione con ancora i registratori magnetici, con le videocassette, quindi ancora tutto analogico. Poi c'è stato l'avvento del, c'è stata quella via di mezzo con macchine praticamente che acquisivano analogico, lavoravano in digitale, poi scaricavano in analogico, e poi l'avvento delle macchine digitali, e quindi praticamente tutto di. Vabbè. Preferisco i vecchi tempi, il rumore della centralina di montaggio quando mettevi i cassettoni, quando facevi il montaggio dei pezzi del telegiornale, era un'altra cuba, era molto più bello, più affascinante. Ma se no, Tino, ce n'è presente la scuola di San Giovanni Bosco a Sacro Cuore, io abitavo lì a Sacro Cuore. Con le scale lì dei visti ci prendevamo una tavola di legno, ci sedevamo sopra e via, cazzo delle scale, una da voi si cazzo del peso che consuma tutti i pantaloni. No, io abitavo a Via Romagna, angolo via Marghinotti, no? Quindi ma io ti parlo che avevo già 15 anni, perché nell'85 ho fatto quella nevicata storica, non so se te la ricordi, e quindi cosa facevamo? Mio padre aveva quelle lamiere dove c'erano disegnati i gelati, ti ricordi, no? E allora chi se la preparava, chi ci metteva una tavoletta, chi metteva i freni, chi frenava con le unghie, via Ricci nel via Sorso, lui lascia perdere. Poi prendevamo, per mantenerci, usavamo uno ostacolo, legavamo da una parte all'altra dei due lati, davanti, ci tenevamo a questo ostacolo e poi via ci lanciavamo, locate da sparare, scendevamo. E poi se ci puntava che si parava a capatella, meno male che erano cose lisce, capito? Usavamo legno con incamiciatura magari di quelle cose, di blessine, se roba del genere. E riciclava bene. Ma non sai quanto ci divertivamo con i monopatti di lì dove c'è proprio da San Giovanni Bosco, scendevamo, facevamo le gare, c'erano quelli che ti spingevano, io stavo seduto al mio monopatto e un altro stavo seduto nel suo, e facevamo le gare, ogni aggressiva. Sì, con i, come si chiamavano quelli che avevano le rotelle, il carruzzo, le rotelle, i cuscinetti, casinarino, poi quando camminavano nel marciapiede che troppo tolgo, ma io queste cose non le ho più viste, o a giocare con una ruota di bicicletta, facevi il gancio e la facevi ruotare, facevi camminare, poi. È vero, anche io ho fatto, con i cerchioni. Adesso non per polemizzare, però siamo dei pandorricchi anche lui. E tu, profe, non hai fatto questi giorni? A voglia, già me le sono sbucciate le ginocchia e i gomiti. E la farà dai rosedo, i ghibi o i pezzi di formica, lasciamo perdere, va, ce ne sarebbe da raccontare. casa è tutto chiuso, ma con chi mi si parla? Tu sei arrato, c'è il cancello, se un turista vuole andare, un turista metto. Mi scusi, io vorrei andare a vedere la fontana vicino, come posso fare? Io ho tutto chiuso il cancello, non lo so, non so cosa dire, ma non va bene, dice, dovrebbe aprirlo. Al ponte si butta, la vede meglio. Che te vuole? Sì, è vero, però perché l'hanno chiuso? Perché non è che l'hanno chiusa perché l'hanno voluta chiudere così per caso. Purtroppo la gente, i tossici andavano lì e si bucavano, lasciavano le siringhe lì, era sempre sporca, quindi alla fine dei giochi, insomma, per preservare un pochino una cosa storica l'hanno chiusa per quello. Sì, ma è un momento. Quando ci sono monumenti aperti, aprono almeno, fanno vedere turisti e cose, invece saldate, saldate, tu basta, finito. Ma i turisti io ne ho trovato diversi d'estate attaccati al cancello che guardavano, che cercavano di zoomare tra cose e l'altro del cancello, ma non è scagliatellato per non prendere il cancello. Mi sembra brutto, sarebbe bello lasciarlo aperto e farlo vedere a tutti. Ci vorrebbero la custodia e basta, qualcuno che custodisce la zona e basta, tutti muore di barracchini, mettici qualche dubbio, mettici qualcuno per controllare, perché è un monumento di Sassari questo. Sì, sì, io sono d'accordo, per carità, però ti ripeto, quando l'aperto è stata la beffa di tutti, perché lì andavano a sporcarla e tu che turista, anche se scendevi lì e vedevi una cosa del genere, bella cagata, e quindi magari hanno messo tanto tempo per poterla pulire, riportarla allo stato alla Benemiglio, hanno messo i ferri proprio per quel motivo lì, per lasciarla pulire una volta per sempre, che poi che sia giusto o sbagliato, purtroppo il comune non siamo noi che lo facciamo, c'è gente più alta di noi in grado di fare queste cose qua, oppure si organizzano, che ne so, determinati giorni per approssimativamente proprio per i turisti, che ne so, 2-3 giorni al mese si apre per i turisti. Quello dovrebbe essere anche un business, volendo, non è che perché ci mette la bancarella anche con, io faccio, dico una cattiva stupida, magari può anche andare come no, se organizzi delle gite e anche una bancarella che vende la fontanella, il classico portachiavi o le magliettine con la fontanella, sarebbe anche una cosa, insomma, bellina, fare il rosello e per quelli che vanno a vederla è una cosa bella. Fai di subvenire con la fontana, magari, il disegno della fontana per i turisti. Sì, certo, magliette, tutte queste cose qua. Con la Santa Sassari, magari con la fontana disegnata. E bisogna avere un po' di iniziativa, ma qua mi pare che non ve ne sono di uscita. Mi pare che vogliono lasciare tutto com'è, non vogliono. Ma speriamo che su questo sindaco, se passa, che cambia qualcosa. Adesso mettiamo a Marco a fare il custode e vediamo cosa esce fuori. Si addormenta Marco. Che cosa, non la venderà? Eia. Comunque avete notato in certe scuole hanno fatto roba di 10 incursioni, hanno danneggiato computer, hanno distrutto tutto, utilizzato estintori, insomma, cioè alla fine che senso ha? Cioè tutti i danni che avranno fatto, no, in certe scuole con tutte queste incursioni, ci pagavi 10 custodi, per dire, ne pagavi uno che dormiva lì, anzi che non dormiva lì, deve stare un po' sveglio, però sembra che preferiscano pagare i danni fatti dai teppisti, che poi molti sono gli stessi ragazzi di scuola, che non mettere un custode, cioè un disgraziato non glielo vuoi dare un lavoro a badare di notte a una scuola, non lo fanno. Marco, non lo fanno, non è che non lo fanno, è che non è ben pagato, perché a parte che un ragazzo non credo che vada lì a lavorare per fare il custode, magari più un padre di famiglia che ha più necessità, e poi non è ben pagato, perché a scuola di mio figlio, per dire, sono entrate, mi sembra, 2 o 3 volte per cosa, per rubare cose. Mio figlio ha 6 anni, non è che è piccolo, quindi all'elementare parlo, cose stupide da rubare. Non mi ricordo che scuola era, ha subito un sacco di danni, più e più volte, perché più ne parlava il giornale, più tornavano. Alla fine i danni, no, in euro, sicuramente vanno ben oltre lo stipendio mensile di un custode, sicuramente. Si parlava anche di computer, proprio attrezzature didattiche. Vabbè, la mentalità in Italia è così. Poi per quanto riguarda i giochi dei bambini, io sarà 30 anni che non vedo bambini giocare a cerbottane, con la fionda, quella che si infilava sulle dita, amico, fatta con le fette quadrate, nulla, sono tutti incollati ai videogiochi. Noi facevamo sì un po' di tutto, nascondino, palla avvelenata, cerbottane, fionde, tutto di più, basta che fosse più legale era, meglio è. Adesso nulla, addirittura se passi in Viale Trento, no? C'è un parco giochi dove andavo io da piccolo a sbaffo. Tu passi a qualsiasi ora della giornata, no? Di mattina, di sera, ed è deserto, il parco giochi è deserto. Sembra, sai cosa sembra? Questo è il parco giochi di Chernobyl, dove non vedi anima viva da 30 anni, e così è ridotto. Videogiochi, e non è che faccia bene. Confronto, noi ci divertivamo parecchio, a parte tornavamo a casa, ci rotolavamo dappertutto, tornavamo a casa in condizioni pietose, no? E poi andavamo anche in discarica, saltavamo sui lastroni di Eternit, allegramente, yuhu, sui tubi al neon, ma e non ci ha fatto niente, ancora, magari gli effetti arrivano dopo, chi lo sa. Allora, io... Aspetta, che tu sta fatto la si è matto quando parla il fabile. Una formazione, già. Il tuo cane che razza è? Il mio è uno sciarpe cinese. Come cazzo si scrive sciarpe cinese? Aspetta, se poi voglio far vedere a mia moglie. E cosa ti stavo dicendo? Sì. E a me che mi disoccupenendo, allo schiaffo, tutti quei giochino, c'è scioccata. Sciarpe, io ho scritto sciarpe cinese, ma come si scrive? Sciarpe, S-H, sciarpe, poi con la Y, cinese, aspetta, come lo scrivi? S, Sierra, Hotel, Alfa, Romeo, Papa, India. Ok, adesso vediamo se... Vabbè, ho capito comunque. No, si scrive S, H, A, R e poi P, staccato. Così si scrive. Cosa prendo io? Con la carta che ha detto, cosa è entrata? Scrivi sciarpe cinese, te lo fa vedere. Ma quello che sembra occupato, è così. No, quello lì è l'americano, quello è incrociato con Giorgio. Ti ha messo anche la tua sciarpa, però se tu vai dove c'è quello marrone, lì ci sono le sciarpe cinesi. Allora, ma il tuo è liscio comunque, vero? Sì, le pieghe ce le ha solo in testa. Ah, è il primo? Ho visto, bello. Non mi ricordavo com'era. Però, ma questo è, cos'è, da combattimento, cos'è? La guardia, o da cosa? Allora, questa è una razza che praticamente c'è da 2000 anni, ha subito varie mutazioni di razza, eccetera, eccetera, però quello che c'ho io è il cane, la razza madre, ed è quello che usavano i cinesi per combattere come cane da guardia e anche da caccia usavano. Li usavano per combattimenti comunque, quelli che non erano buoni se li mangiavano, quelli che non combattevano bene. Poi un americano ha visto che stava andando in via di estinzione e ha preso questo sciarpe qua, l'ha incrociato col ciuccio e ha fatto con la razza americana, quella che ha il muso di quel popotamo, per intendersi. Ma io ho capito. No, io sto cercando un cocker, se sapete che chi ce l'ha? Cocker? Beh sì, ce ne sono vicino a casa, di per si chiama Cocker, ma sono tutti maschi, quelli che lo visto io. E ce n'è uno che con Teso non va poco la cosa, che quando Teso lo vede se lo vuole sbranare, ci ha perso le quattro zampe. Ho visto. No vabbè, poi ero mezzo intenzionato a o quello oppure il dog argentino, ma è ancora insomma una razza un po' così, per ancora bambini sono piccoli, quindi sì, non è fare questi errori, che è un'alfa quel cane, la sapete. Hai visto quello di Eugenio cosa abbiamo fatto a quell'altro cane? Gli hanno tracciato tutti e due gli orecchi, più non so cosa non pagare i veterinari. Gli ha tracciato le orecchie a quel rosso fai. Diciamo che avevo messo un cane da guardia più che altro. Perché un papà tedesco, femmina, ma se niente ti offre anche il caffè. Perché è femmina? Sempre questo il cane è grosso, non ti piace? Bellissimo. Vedi, se non sapevo qui, ma io ho un collega che praticamente mi stava prendendo i cani grossi. Ne aveva 4, mi pare. Vabbè, io sinceramente io sono sempre, allora, a prescindere che ho avuto varie tipologie di cani e tutti di razza li ho sempre regalati, perché non perché lo voglio io regalare, nel senso che è un cane che se vai a comprarlo, uno ne ho comprato e mi è andato male, e, insomma, preferirei non spendere quattrini sul cane, perché cosa così, una cosa mia, ecco, non perché non le voglia acquistare, non lo vedo comprare un cane, ecco, questa cosa di comprare un cane, preferirei andare e prendere un bastardino a regalo, capito? Vabbè, è una questione di opinione, io per dire, il mio non l'ho pagato tantissimo, ma perché? Questo qua ne stava vendendo, sì, li stavo vendendo da uno 700 euro e gli altri 900, uno con la femmina sta vendendo di meno. E praticamente era su subito.it. E io gli ho chiesto se poteva venderli meno, che a me ce n'era uno che piaceva, e lui ha detto no, guardi, meno non li posso dare perché li devo sverminare, li devo fare i vaccini, in più è un cane che c'ha il pedigree e tutto quanto, li devo fare i pedigree. E io gli ho detto, a me non interessa né sverminare, né fare i vaccini e né fare i pedigree, faccio tutto io. Quanto me lo dai? E lui mi ha detto, guarda, non lo so, vedo adesso, se non riesco a vendervi, lasci il numero di telefono. Beh, io l'ho pagato 100 euro, Dio, 200 euro, capito? Però me l'ho tutto sverminato, gli ho fatto i vaccini io, tutto quanto io, capito? Pedigree non ne ho fatto, non me ne frega nulla, tanto lo devo fare gatto. Lo so. No, vabbè, voglio dire, anche nei canili, se tu vai ti fai un giro, tu non so se sei mai andato nei canili a vedere così che tipologia di cane hanno, però ne hanno tantissimi belli, che purtroppo devi trovare quello bello e piccolo nello stesso tempo, perché sennò se già lo prendi grande non è cresciuto insieme a te, non sai come si comporta, non sai le sue abitudini e tutto quanto. No, tu pensi che quando avevo il cocker io, a me me l'hanno dato, regalato, che aveva 15 giorni, ok? Quindi in 15 giorni l'ho dovuto anche allattare. Dopodiché gli ho fatto fare alcune cucciolotte e li ho tutti regalati. E tu lo vuoi femmina per farmi fare i cucciolotti, tu c'è il posto in campagna, giustamente. Ma io in casa femmine non me ne potevo vendere, se no me l'avrei presa anche io una femmina, perché era proprio un problema. Quando c'è il ciclo, quando deve partorire, è un casino. Andava, Marco, venga te tu come sta? Aspetta che mi ero distratto, mi ha chiesto il gatto. Ehi, non ne hai due? Sì, al solito. Mangiano, fanno la pupù, poi mangiano, fanno la pupù. Quella va. Vabbè. E io per i cani, per me sarebbe un incubo, lo sai, devo portare mattina, pomeriggio, sera. Perciò preferiamo i gatti, che sono per i cavoli loro, si amministrano loro, però non è la stessa cosa. Il cane è più intelligente, eccetera eccetera. magari se avessimo un pezzo di campagna avremmo anche preso un cane. Aspetta, cosa vi volevo chiedere? Non me ne ricordo. Ma Gianni c'è ancora? Che cosa è? Aspetta, ti volevo fare una domanda. Guarda, no, ti voglio dire una cosa, non fare una domanda. Guarda che portare il cane ti sprona a uscire prima cosa e più ti fa conoscere un po' di gente, tante volte ragazze. Quindi potresti anche approfittare. Quello sarebbe un incentivo a uscire, però qua in condominio non... Già ce li hanno i cani, di quelli piccoli e abbaiosi, mi. Però non... No, per carità. Poi certe volte ci sono questi giorni che non... Certi giorni proprio sto tutta la sera a letto, proprio non me la sento. E comunque periodo strano anche Claudio, mi pare avevo sentito, stava parlando al baracchino, lo stesso c'aveva dolori, mi pare anche Gianni tu non stavi bene, Giulio credo, non so per quale motivo doveva ricoverarsi, insomma periodo strano. E cosa vuoi ti dica, io stavo bene a 15 anni. Vabbè, grazie al cavolo. Senza pensieri, hai capito? Beh, vabbè. Non per, ma posso sapere quanti anni hai, Marco? Tanto sarai all'incirca come me. Allora, forse ho perso pure il conto, Tino. Vabbè, lo chiamo sì, te lo ricordi. Avevo anche la memoria e perso. Allora, sono 47. Se ci arrivo, perché non è detto, ad agosto sono 48. E buttati pure. La mia età. Anzi, io ne ho uno più di te, figurati. Va bene, dai. Oh, io ti facevo dell'età di Claudio. Oh, c'era la voce mascola, non lo so. Ancora no, per dire ancora no. Non sono in pensione, quindi tocca tribulare, tocca andare avanti e così via. Sono da 70. Eia, 71. Vabbè. Stavo guardando l'alfabeto nato, no, già, io lo pronuncio sempre all'italiana. Hotel in realtà è, dovrei pronunciarlo con l'H, hotel. C'è la caravanti, invece Oscar è la O. Poi ho trovato un alfabeto che usavano nella prima guerra mondiale, quando non esisteva l'alfabeto nato, però è bruttissimo rispetto al nato. Brutto, tipo Nuts, Orange, Pip, Queen, Robert, SS, Doc, Uncle, Vic. Tedesche. Sempre roba militare, che usavano i militari per codici, no, per abbreviare, per fare lo spelling. Bello, bello. Oia! E con le carabine, chi dà lo stai, ma? Sì, quest'ultimo periodo io posso disporre massimo di 12 metri, massimo 13 dalla bocca della carabina, misurati proprio a decametro, è un po'. Di più in lunghezza non posso fare. Avevo riparato anche la pistola aria compressa, quella CO2, no? Voglio dire. Ho cambiato la valvola, se non che dopo pochi colpi è partito un O-ring che fa da tenuta tra la valvola e la camera del pallino. Me lo sono trovato in mano, è proprio uscito, saltato fuori. Quindi devo ritornare a Pasquale, riportargliela. Se c'è bisogno di ricambi li devo ordinare dal Portogallo, niente di meno, perché i ricambi in Italia non te ne danno. L'Italia è un paese parassita. È una cosa incredibile, cioè tu i ricambi trovi anche un gommino da 10 centesimi, però lo trovi in Spagna e in Portogallo, in Italia non te ne portano. Becco, registrato. Ma ti manco tanto, perché fai tiro a segno con aria compressa? Ma in privato, per esempio in campagna, da mia zia o a casa. Sì, qualcosina, ma carabine terra-terra, mi, roba liberalizzata, che poi non è nemmeno il massimo della precisione, mi. belle sono le PCP o come le chiamano, quelle che hanno un serbatoio tubolare e ci hanno pressioni però elevate, quelle anche. Conosco. No, io ho preso una gamma CFX che però non mi soddisfava come potenza di bella, perché è bella, però come io so solo perché sono più portato al calibro 12 e al 9321, però usare queste carabine così a 10 metri non mi piace, troppo vicino, 10-15 metri troppo vicino. Quindi stavo cercando una carabina un pochino più potente, forse quella con non libera vendita ma quella col porto d'arma, quella raggiunge intorno ai 30 metri, è già una cosa più impegnativa, più bellina anche, a mio parere. Vabbè, avanti il break, se no poi monopolizziamo. Io sono, ragazzi. sono io il breco. Sei sparito. Sono sempre qua, non sono sparito. L'abbiamo chiamato due volte, non c'è entrato. Cosa stavi facendo, mascalzò? Stavo mangiando biscotti. No, mi è arrivata una telefonata, stavo rispondendo a una chiamata al telefono. Che abbiamo chiamato, dai. Hai capito, va? Ne ho preso una adesso così in prova da un amico, perché gli ho dovuto fare un po' l'ottica e poi anche ho tolto l'ottica e gli ho fatto l'attacca di mira, ma a 15 metri non di più. Io ho la Diana 28, mi interessa con l'ottica e tutto qua, anche la spugna, toda la manica. Aspetta un attimino, la guardo, se è bella la prendo. Domanda bruciapelo, il canale 52 a che frequenza corrisponde? 27555. Diana? 28. Vediamo cos'è. Beh, non me ricambi. Gianni. Baby. Curiosità, allora la mia è una Gamo, però questa, la mia nasce già di potenza ridotta, sotto i 7 joule e mezzo. La tua in origine è più potente ed è depotenziata per il libero mercato, niente ne sai? O nasce proprio così? No, nasce così. Sempre così. Anche la mia ho messo nel ferrato, allora. Ho messo il tiro a segno, quello grosso, fatto pure il tiro. Quelli grossi che si usavano per i raddetti, non so se te li ricordi. In più un coso di polistirolo grosso dietro e dietro un coso di lamiera per non bucare il muro, l'ha trapassata la tugana. Oh già, ma qual è quella con la canna finale, come te lo posso dire, tipo silenziatore prolungato oppure solo con l'attacca di mira? Perché ce ne sono due modelli qua. No, è con la canna normale, come ha possibilità, ma la canna normale lunga, finisce sempre della stessa dimensione, spara a funghi, io ho preso quelli con le punte, ma bisogna associare, è un po' pesante, Tino, non è leggera. Ti dico la verità, perché vecchia generazione già è perfetta, non c'è un graffio, niente, tutta lucida, il manico lucido, non c'è un graffietto. La conosco, ce l'ho anche io ho una 16 e poi ho la CFX e poi vabbè calibro 12 ne ho 5 e due pistole e vabbè poi non può raccontare cosa c'è che la può fare in casa. Marco ha il metti e quant'altro, io la rimanenza. No, è bellina, poi vabbè, spara. Spara bene. Va bene, con il tappo mi diverto. Però la verità, mi hanno detto che ne esistono più leggere di quella, molto più leggere, tipo quella che c'ha a mano. Guarda, io ti faccio provare questa che ho io, è come un manico di scopa, leggerissima, in confronto a questo in legno che facevano una volta, quindi è tutta un'altra tipologia, poi addirittura anche una diversa carica, molto più potente queste di adesso che quelle di prima, anche se puoi cambiare la molla e fare anche altre modifiche, per carità, la tua originale. Sì, originale. No, non è cambiata. È originale la molla, però se cambi la molla sei già fuori legge. Se ce l'hai originale non ti fanno niente, perché io ho il trapezio e tutto quanto, nel senso che c'ho il foglio, la chi me l'ha veduta, con lo scritto e tutto quanto. E vabbè, quello lascia il tempo che trova, sì. Sì, dico spara, ma non spara, lo so che spara l'arma, dico spara tu, quanto? Non l'ho provata in lontananza, perché non ho mai avuto il coso di portarla in campagna, roba del genere. Io sparo, guarda, con una ventina di metri, così, sparo dentro casa, sino al terrazzo fuori, capito? Ho capito. Vabbè, volevo dirti quanto a cui mi spara al prezzo. Sono mezz'ora in cerca di io. Però c'è che devo andare via a prendere a Gabriele, poi ti faccio sapere, dai. No, vabbè, ci sentiamo, non dico niente di prezzo. Te la faccio vedere, se ti piace, c'è anche studia nuova, ho fatto la custodia, se non custodia oggi pagando 60 euro, nuova. Comprata e decreta la vendita. C'ha l'ottica, c'ha una bella carabina. Una bella carabina. Tanto io la uso poco, non è che la uso tantissimo la vita. Ogni tanto quando voglio di perdere. Ma Marco c'ha più possibilità che vada alla piega, a pane e ammazza i tubi da casa sua. Ehi, ma tu non sapevi il mio numero di telefono, Gianna? Ah, non lo so, io non me lo ricordo, forse sì. Ma nel caso mandami una foto, dai. Devo uscire che devo andare a prendere mio figlio, dai, ci si sente dopo se ci siete, se no ritenete tutti quanti salutati, anche agli eventuali ascoltoni. Rilancio il mic a Gianni, un broffetta, che sennò dopo dice break di nuovo, insomma non va bene, dai. Poi puoi girare per Marco, ciao. Ehi, sì, dai, riprendo io un attimino. Marco, mi stavi dicendo che lo smitter praticamente era un po' a conto suo, ma vedo che, insomma, a meno che non stia sognando, insomma, vedo che si sta muovendo e sta comportando bene. Ehi Attino, dai, ci sentiamo dopo nel caso. Allora, per i segnali sotto il 9 li falsa, li abbassa molto. Sopra il 9 va interpretato in base... già quello diverso da questo, in base alle distanze, cerca di capire, alla fine c'ha poco range comunque, non arriva mai al più 30, capito? Cioè da Santiago 910 al più 30 non cambia, purtroppo baracchini sono, che te devo dire? Non è così, ma baracchini, io tutti i baracchini che ho vanno anche a 930, anche a 930. Vabbè, quello no, quello lo smitter è persino più limitato di questo. Guarda, lo smitter bello ce l'aveva il 140, caspita. Quello era da tenere solo per lo smitter, ma solo per quello Migia, per il resto no. Ui. Guarda, lo smitter del 140 era un po' identico a questo delle Galaxy. Perché quello che segnava il 140 mi segnava il Galaxy, ho fatto la prova. Ma quelli sono anche più costosi già, magari sono tarati meglio. Per esempio stavo notando che già Nina M mi risulta abbastanza indietro di frequenza, che in AM non è un problema, però per riuscire a sentirlo meglio ho messo il telerifier tutto a sinistra. E purtroppo anche questo mi... Allora Gianni, tutti e due Gianni, questo display blu appena comprato era abbastanza fuori frequenza, roba di un kilohertz. L'ho dovuto centrare io in trasmissione, credo, l'ho dovuto centrare in ricezione, non mi ricordo, c'è proprio un trimmer apposito, non è una bobina, comunque. E qua praticamente non li tarano di fabbrica, li buttano così come escono, perché cioè, me ne sono accorto facendo sempre le prove col capo, no? Che quello è più, era tarato meglio, cioè quello era già più professionale. Ti volevo dire già, ma tu ti sei già stancato della carabina? Ma proprio perché non è un punto di riferimento dove andare a tirare? Perché non ho tempo, lo faccio in casa, ma la faccio da, non buccate il culo. Ti sto dicendo che ho messo la lamiera a buccare il durazzo. Lamiera, coso, le tirassegno, più un pezzo di pulistino lo grosso, e anche il Eia. Poi naturalmente anche in campagna, vedi, lì è terreno privato, poi il muro è alto almeno 1,80, perché ci sono anche questi regolamenti da rispettare, no? Anche se è luogo privato, per evitare che un pallino vada fuori, no? Uno bene o male tira o in piedi o accovacciato, insomma, a meno che uno non tiri a 45 gradi, allora lo fa apposta. Il trasporto era legale, legalissimo, benché ne dicesse qualcuno che era no, è reato. Gli ho portato la legge a questa persona, no? Gli ho portato la legge, il trasporto è ammesso, naturalmente scarica, naturalmente nel cofano, in custodia oppure nella scatola. Non è così, cioè questa persona interpellata, lui era al di sopra della legge, secondo dice. Se io vedo uno che trasporta la carabina lo denuncio, e allora lì c'è il problema, un altro già. Ci sono manie di onnipotenza, capito? Sì, loro ti denunciano, poi sta a te metterti l'avvocato e fare varie critiche. Però loro intanto ti denunciano, capito? Sia carabinieri, polizia, strappano qualcosa. Tu puoi fare una rapina, puoi fare qualsiasi cosa. Cosa ne sa la gente se carabina, se fucile, cos'è? Ma loro lo vedono, basta aprire la canna e vedono che è 4,5, ma c'è da un primo controllo, me ne accorgo io anche, per dire. No, normalmente non devono denunciare, assolutamente. Diciamo che questo che abbiamo trovato, che non è... vabbè, adesso non scendo nel dettaglio. Così, secondo lui noi denunciamo, sempre plurale maiestatis, e intanto uno viene denunciato, decide di pagare l'avvocato per difendersi da un'accusa inesistente, perché proprio se guardi la legge il trasporto è ammesso, cioè tipo da casa a campagna, da campagna a casa o il terreno privato che sia, no? Il porto ovviamente no. Cioè, se tu sei in città con la carabina in macchina, magari sul sedile, magari carica, è più preoccupante quella. E vabbè, dipende chi trovi, ma poi lo sai come fanno, no? A te ti avevano trovato storie lì, quelli di Polo Torres, l'antenna è troppo lunga, l'antenna del baracchino, ma troppo lunga poi rispetto a cosa? Lo fanno per provocare, per fare sbruffoni, per vedere se la persona reagisce male, capito? No, a Santa Teresa mi hanno fermato, ma manco, Santa Teresa. Ma Santa Teresa, carabinieri di Santa Teresa. Praticamente è detto che l'antenna dovrebbe essere, ci dovrebbe essere un gancio come ce l'hanno loro, e messa girata e agganciata, perché se quell'antenna lì va su qualche macchina, su qualcuno che è morto, li togli giù. A parte che se sono in moto vale un casco, in macchina non penso che ti faccia niente, e poi l'antenna è dritta, io staccato così pigiarlo da voi, lascia perdere che... E comunque a uno di oggi non gli hanno messo la multa, uno che fa... non so se sia di uso, però l'ho trovata a oggi io, l'ho trovata a Bonaria di oggi. E mi ha detto che questo carabinieri di oggi non gli ha detto che l'antenna lunga non si poteva tenere, che bisognava metterla in basso e non in alto. Vabbè, ma lì ci devono essere riferimenti di legge quando redige un verbale. Cioè, gli avrà fatto una... Poi vabbè, la multa è appellabile. Poi se quello ha dichiarato il falso sono affari suoi, capito, il verbaleggiante. E non è che si possono inventare i reati o gli illeciti, capito? E dipende chi trovi, capito? Ma poi quelli non sanno che, cioè, se tu la agganci dietro, piegata, e come fai a radiare l'antenna? Non lo sanno che è stazionaria, che bruci tutto. Figurati se puoi ragionare con elementi del genere. Ma infatti, ma qui sono sempre casini, cioè sono sempre rotture di palla, quando ti mette la bocca, tutto da. Adesso hanno fatto la predamica, mi hanno detto che c'è un capannone dove si fa sparare, lo sai, con le carabinieri. Aria compressa, via. E tu già, a proposito, passione, ti rassegno, qualsiasi cosa, hobby riguardanti tirare a qualcosa, nulla? No, negativo, no, non mi hanno mai esaltato robe, cose di questo genere, proprio zero perpetuo, no, proprio non fa per me, non... Già non, ho una certa riluttanza a impugnare roba del genere, quindi no, io personalmente no. No, io passione a livello teorico, però poi, come raccontavo altre volte, andavo al poligono e tiro a chiedere la lista dei documenti da portare, no? Tra bolli, iscrizioni, certificati, ma non sai quanto mi usciva, infatti ho detto... Pensa che sono andato 3 volte al poligono nell'arco di tutta la vita a chiedere la lista dei documenti da fare, no? E se tu facevi il conto di tutte le cose, ho detto, magari me lo vado di qua. Poi quando vai lì ti devi affittare la linea di mira, devi affittare l'arma se non ce l'hai, perché detto tra noi avere l'arma vera a casa... Io l'ho sempre considerato una rogna, devi fare rinnovi, controlli, una palla. E poi ho lasciato perdere tutto. Poi i soldi ne ho buttato altrove e ne ho buttati, già ne ho buttati. Però proprio lì non lo so. Invece conoscevo gente di scuola che hanno fatto carte false, tra virgolette, no, per avere l'arma. Pensa, non avevano nemmeno la patente di guida, la prima cosa che hanno fatto è il porto d'armi. E lì c'era. Proprio è un feticcio l'arma, a me non so come spiegarti già. Beh, già più o meno credo di averti capito. Vabbè, l'unica cosa che insomma che mi è capitata, cioè nel senso che di cui sono in possesso è giusto una patalesa, ma nient'altro. Io c'ho l'arbureta, è più grossa, più gonfia, più lunga. Cosa volevo dirti già, sempre a questo proposito, io penso negli anni 30, 40 o 50, no, o giù di lì, noi abbiamo avuto 2 parenti morti per le armi da fuoco, no? Quindi nonno non le poteva vedere. Uno era una specie di zio, non so se acquisito oppure no. Sono stati 2 gli episodi. In un episodio, questo ha fatto vedere la pistola all'amico, che era il nostro parente, non si sa come parte il colpo, è morto, per dire, no? A parte che certe pistole all'epoca erano percussore lanciato, lasciamo perdere, ma non ci avevano le sicure automatiche di adesso, no? E invece un altro parente era morto perché una pistola era caduta per terra e quella sicuramente era percussore lanciato, no? E così ha sparato e ha seccato e quindi non le poteva vedere le armi. Addirittura quando era in marina, no? Ed erano tempi di guerra, era uscito con la fondina e anziché la pistola si è messo la carta dentro nella fondina perché non ne voleva sapere di armi. E un ufficiale un giorno durante l'ispezione gli ha controllato la pistola, per la fondina c'era la carta e allora l'ha punito. Eia. Sì, no, per le armi. Poi sai cosa lui ha fatto la seconda guerra mondiale, ha visto cose orribili. Hanno subito un affondamento, dice che il rumore dei colpi, delle cannonate era così assordante che non capivi se erano in partenza o in arrivo, cioè non capivi se erano colpi sparati da loro o esplosioni che gli arrivavano addosso. Per carità, mamma mia, mai sia. E mio padre ha combattuto il primo fronte in Albania, immagina. Mi ha raccontato che ci avevano un sacco di munizioni addosso che pesavano anche 100 kg. Sì, sì. quelle cannoniere di una volta, no? Anche come si chiamano quei cannoni da campo, adesso cannoni generici chiamiamoli, mentre vedi adesso nelle navi o anche su terraferma si usano più missili guidati, razzi, prima era tutto a cannonate e certi proiettili di cannone, soprattutto navale, era una cosa enorme, una cosa enorme. Palle di ferro pesanti, io le ho viste, sai dove? Quando sono andato, le ho viste in Piazza Castello che adesso hanno fatto uno scavato, hanno trovato tutto il sotterraneo che portava al castello, eccetera, eccetera, sono andato a visitare e alla tanta ci sono le palle di cannone. A proposito, sai cosa mi è successo una volta? Allora, c'era questa collega, quando lavoravo a Ruscello, Alghero, no? Io accompagnavo questa di Sassari a lavorare lì, no, in discoteca. E sai, prima di andare in discoteca si andava in piazzetta lì a pigliare l'aperitivo e così stava parlando di quei cannoni del 700, no? Quelli che sono sui bastioni, dai, vicino alla piazzetta, non mi ricordo il nome della via. I cannoni dei tempi di, no, 1700, 1600, non so esattamente. E lei dice, se ne è uscita, dice, ah ma questi sono i cannoni che usavano nella seconda guerra mondiale. Io, cosa? Cosa? Lì non ci sono più almeno, lo sa. Oh, li hanno tolti, che cavolo. Non ci sono più, io sono andato al vero, non c'erano più, sai, dai io che ci facciamo la fotografia sul cannone. E invece non mi darai più. Il fatto sta che sia corretta, no? Poi io ho detto seconda guerra mondiale, ho detto no, ma stai scherzando, dice, ah no, volevo dire prima guerra mondiale, no, ho detto, hai sbagliato i tre secoli almeno, vai Lubrofè. Mi sa che da Alghero mancano già da un bel po' di tempo, mancano già da un bel po'. Non so se li hanno spostati per restaurarli, insomma, per. Ultimamente non è che li trattassero molto bene, cioè forse li hanno fatti, insomma, li hanno portati via per sistemarli, non so che cosa. Comunque già da un po' di tempo che mancano. Caspita, io non vado all'Alghero guidando io, non vado da credo più di 10 anni. Proprio mi costa, e poi non mi piace guidare di notte, non mi piace niente. Quando sei in zone proprio buie completamente e incroci le altre macchine, i fari ti sembrano fortissimi, quasi ti abbagliano. No, anche se suonano abbaglianti, mi danno un fastidio tale, non mi piace più guidare di notte, fuori città. Esistono gli occhiali per guidare di notte, ma mi dà fastidio la luce. Ma come sono? Fotocromatici oppure... Io li ho comprati, ce li avevo, quando praticamente vedevo l'effetto proscritto e c'avevo la cataratta, mi facevo vedere l'effetto stella, diciamo, quando tu incrociavi la macchina vedi come una stella che ti abbagliava. E con questi occhiali non vedevi la stella, vedevi bene. Ma li avevo comprati da lui. Adesso non mi ricordo se ho fotocromatici o come sia, però ne ho più avuti, dai. Mi aiutavano prima di operarmi alle cataratte e usavo. Ah sì, l'effetto cross screen, come il filtro che applicavi sulle macchine fotografiche, sulle videocamere per fare la stellina e luce. A proposito, già tu stavi parlando di nastri, io sono ancora rimasto a una videocamera Sony del formato i8, no? 8 mm praticamente come un super VHS, no? Quindi analogica. E poi una Canon mini DV con quelle cassettine piccole. Poi mi sono bloccato perché alla fine tra cellulari, come dire, telefonini con fotocamera, videocamera, c'è stato un... non ho più avuto necessità mi delle vere videocamere. Comprensibilissimo. E tu ti stai riferendo cioè è nato come video 8, poi c'è stata l'evoluzione hanno fatto qualche miglioria, tipo la miglioria del sistema in HI8, è migliorata appena appena la risoluzione delle linee orizzontali, insomma, hanno migliorato appena appena la definizione, è come il VHS, il Super VHS, dove hanno aumentato praticamente la risoluzione delle righe orizzontali, però bene o male il format era sempre quello. E adesso credo che prima le vendevano anche a Corte Santa Maria le cassette mini DV della TDK, adesso credo che trovarle, insomma, adesso non si, forse magari da Media World o questi cosi qua, qualche cosa ce l'hanno ancora. Io ho la videocamera professionale che gira ancora che adopera le cassette mini DV. Ma quella bella che avevo visto in Piazza d'Italia tanti anni fa? Boh, non lo so, è una GVC, registra in HD, 1280x720 progressivo. Guarda, ne avevo vista una in piazza e aveva per l'epoca aveva il mirino LCD, il mirino non lo schermo, a colori, era già a colori per l'epoca, infatti ero estasiato io, probabilmente è quella. Boh, è probabile, di che anni stiamo parlando? Sì, già, credo che ci fosse ancora la lira. No, al negativo, allora non è quella che ho io adesso, non è quella mia personale, probabile che sia stata un'altra cosa, forse la Canon, la Canon della televisione, sì, può essere che sia stata quella. Ascolta, una curiosità, ogni volta che agganci col PPT, col del microfono, praticamente sembra di sentire di stapparti una bottiglia. Oh, ma aspetta, vediamo se faccio questo ciocco. No, è come se stappi una bottiglia. Che timbrachina hanno un attacco un po' strano, no? Cioè, come sale la portante, chi ascolta sente un rumorino particolare. Poi con le fotocamere, anche le compatte, ormai fanno tutto foto, video, c'è lo zoom ottico, mentre la maggior parte dei cellulari ce l'ha solo digitale, no? E peggiora solo l'immagine degli smartphone. Anzi, già ne aveva una bella, non so poi se l'abbia venduta. Già, cos'era la tua? Nikon o Canon, cos'era? La Nikon 60D, non aspetta, ho sentito qualcuno sotto, chi vuole entrare? Oh, forse è propagazione, mi è sembrato di sentire uno che parlava con accento campano. Vabbè, adesso ci sono le 4K, Gianni, videocamerine piccole 4K, poi niente nastri, niente parte in movimento, per fortuna c'hanno le micro SD o le SD. Solo che non ne vale più la pena, perché prima, vabbè, eravamo più giovani in famiglia, ero più giovane io, c'era più voglia di fare, adesso cosa vado a riprendere? La cavalcata, 48 anni, 47 anni che la sopporto, no, non ci vado nemmeno più, lo sai, nemmeno ai candelieri. Ma io mi sono fatto dei tiri, ho fatto tutte le chiese di Brandini, nella Brandini. Ho fatto San Calvino, ho fatto San Caggia, Santa Maria, tutte le chiese della Bizantina, anche tutti i murali. E poi già lo sai che fine ha fatto, a me la macchina mi è scesa da aver fatto, perché alla fine che hanno fatto tutti i chilometri che ho fatto per fare questi temi che mi ero imposto di fare, che c'era un concorso fotografico, già lo sai che fine hanno fatto, quindi la macchina non l'ho venduta, l'ho regalata a mia figlia. C'è una portantina in propagazione, beh, basta però. Sì, infatti io quella volta, ma già te l'ho detto, a parole mie non lo posso dire perché mi sono ripromesso di limitarmi, no? Anzi, gliel'avrei rotta in testa la fotocamera se non avesse fatto una cosa del genere. Ma Gianni non lo sa, Gianni aveva fatto vacanze, gite, di tutto di più aveva fotografato, poi si può dire già un parente che non era pratico, ha toccato qualcosa al computer, gli ha cancellato irreversibilmente tutte le foto di quanti anni di foto erano già. Sì, era una famosa, avevo fatto un demo, qui tua madre mi aveva chiesto a cosa di farmi le fotografie, che non l'ho fatto, me lo dico, dire dove volare. Che figlio. Eia, è brutto così. Cioè, finché già è brutto se capita per colpa propria, che capiti per colpa di altri, vabbè. Però cosa devo fare? Picchiare, ma eia. E comunque sta correndo la tecnologia in quanto video, prima Full HD, si strappavano i capelli, televisore Full HD, poi cos'era? Cosa è uscito? 4K, adesso siamo già all'8K. Cioè se stai appresso a loro dovresti cambiare la televisore ogni semestre o ogni anno, al limite. O il 3D, ne hanno fatto vari tipi. A proposito di 3D, ti ricordi Gianni quella volta che quel tipo di 3D che avevi tu mi aveva fatto venire a capogiro e mi aveva disturbato lo stomaco, lo sai? Caspita, no, non me l'ero dimenticata quella cosa lì. Invece ci sono altri tipi di 3D di cui non conosco assolutamente il funzionamento e non danno quell'effetto. Poi magari Gianni, magari il profeta lo sa di più, quante tecnologie ci sono 3D per i televisori? Niente ne sai. No, negativo, Marco, su questa cosa qua. Scusa se sto ridendo, ma mi fa morire lo stappo della bottiglia quando premi la portante. Adesso doppio nulla, lo senti quando Marco Condor praticamente attacca col mic e si sente come uno stappo di bottiglia. Da te tu riesci a sentirlo? Sì, lo sento. È embriagone, per quello ogni volta che lui si rilancia si apre una bottiglia di birra. Lo spumante o la champagne, sì, è una caratteristica di questo. Sì, praticamente ha disturbato la vista, caspita. Poi anche il giorno dopo un senso di nausea, infatti hanno raccomandato che se fa quegli effetti di smettere di guardarlo. Infatti poi io di 3D non so niente. Una volta addirittura c'erano quel 3D brutto che ti davano gli occhialini, ma sto parlando di 20 anni fa, che ti davano gli occhialini che era uno rosso e uno azzurro o verde, non mi ricordo nemmeno il colore che avevano. Ma che mio sono gli occhiali, però Marco non ha mai fatto questo effetto a nessuno. Ho invitato amici per vedere il film, abbiamo guardato documentari, c'erano i pesciolini che ti entravano, che sembrava che ti entrassero dentro casa, allucinante, bellissimo. E poi c'è una murena a un certo punto che esce, apre la bocca, cazzo, lo sai la gente che fa spaventare, sembra che ti va in faccia. No, non ha mai dato problemi a nessuno, tutta la mia famiglia l'ha visto, ho portato amiche, ho portato ragazze che avevo, eccetera, eccetera, ma è sempre piaciuto senza avere problemi. Non capisco, magari a te ti ha dato questo problema, non siamo tutti uguali. Sì, quello lo fa solo a una piccola, vuol dire che, non lo so, io, è una piccola parte delle persone che potrebbe risentire, e infatti qualcuno raccomandava di smettere di guardarlo, e a me lo fa. Poi che lo sa se c'entrava anche con la storia del tumore che premeva sul chiasma ottico, magari era anche quello Migia, mi si accavallavano gli occhi. Sì, però sai, siccome sono cose che possono recidivare, ma nel corso dei decenni, nel caso consigliano di tenerlo, anche se benigno, di tenere eventuali recidive sotto controllo con la radioterapia. E nel caso più specifico il famoso gamma knife, praticamente è un tipo di radioterapia a raggi gamma, quindi già un po' roba lonfia, no? Dove loro ti immobilizzano la testa, ti mettono nel macchinario, e questo macchinario è talmente preciso, è proprio millimetrico, loro tarano in base a tre assi, tarano proprio il punto da bombardare, capito, è una radioterapia molto molto mirata, infatti si chiama gamma knife, knife vuol dire coltello, capito, coltello gamma, proprio molto molto preciso. No, no, ma poi il dolore nulla, perché in ospedale mi chiedevano anche se dopo l'operazione avevo mal di testa, perché molti soffrivano di morto, no, non c'ho nulla, ero solo stordito per via di quelle placche nasali, mamma mia quelle placche, le hanno tolte, erano lunghe 8 cm, quelle mi hanno dato molto fastidio, si chiama Plastifix, no? Le mettono per tanti motivi, poi il setto nasale era un po' deviato, è deviato tuttora, no? Ma avevano cucito tutto il naso internamente, devi vedere cosa tutto ci hanno messo, mamma mia. E vabbè. Però comunque a parte quello che non dava sintomi, la salute è quello che adesso non voglio ripetermi, però non sono sempre stanco, certi giorni non mi alzo dal letto proprio. No, non è buona la cosa, non è buona. E poi sai, più si invecchia, è stata molto graduale questa stanchezza, no? E più passano i decenni, peggiora, cosa vuoi ti dica? Ti ho detto, la prima rata, l'anno scorso è arrivata la prima rata di Malanni, e adesso deve arrivare la seconda rata, come le rate di Equitalia, me. Vai, Rubroffè. Ehi, ascolta Marco, sto guardando su internet se trovo lo schemino per cambiare i contatti del microfono. Hai qualche eventuale dritta da darmi, qualche indirizzo su dove posso scaricare piuttosto che aprire lo spinotto così, per evitare insomma rotture di balle? Una volta, caspita, col vecchio cellulare avevo salvato un me di roba, lo schemino del microfono, che poi sai come l'avevo trovato io? Col tester mettevo i puntali, iniziavo già i pin 1, 2, 3, 4, mettevo 1, 2, vedevo cosa succedeva premendo o non premendo, al fine facilmente riesci a trovare la massa, la ricezione, poi il PTT, cioè la trasmissione senza la capsula, e poi trovi anche la capsula, perché c'è un'impedenza intorno ai 500 ohm circa. Comunque se trovo qualcosa te lo mando subito e stanotte gli do una bella occhiata. Ma in sostanza praticamente lo spinotto è sempre un quattro poli, però cambiano praticamente la disposizione proprio dei contatti, giusto? Marco! Eia! Tu non hai avuto le mie principi con quell'apparecchio, non è mai piantato, mi sa che va quelli sopra sotto e quelli sotto sopra, basta. C'è l'attacco viva e così. Allora ricordo, credo di ricordare che rispetto all'Alan 48 Hold erano come invertiti. Però Gianni vuole, aspetta, qualcosa di più specifico. Là, se trovo qualcosa, mi ero fatto anche uno schemino su foglietto, addirittura mi ero fatto tutte le corrispondenze con i vari tipo Alan 48 Hold, tutto perso, caspita. Vabbè, comunque si trova tutto già, in rete trovi tutto. Ti dirò di più, siccome quell'apparato, tu quando salderai l'amplificato, puoi saldare solo tre fili, cioè massa, PTT e capsula. Non hai bisogno di saldare il filo della ricezione, perché quel baracchino, se tu togli il microfono, se proprio lo sfili della ghiera, riceve anche senza microfono, mentre i baracchini... credo come il 48, come l'FM500S, insomma i baracchini di una volta, soprattutto quelli omologati, come toglievi lo spinotto del microfono non ricevevi, li togli l'audio della ricezione. E allora Gianni, come ti dico io, quelli sopra vanno sotto nella stessa parte, quelli sotto sopra, e basta. Ok, adesso magari come stacco dopo smonto lo spinotto e guardo lo schemino e poi faccio un copia e incolla sull'altro. Sì, sono così perché avranno sessantato del Galaxy, sicuramente il Galaxy è così, vanno messi così, cioè cosa, le 4, 5 c'erano l'attacco e quindi vado per di sopra, vanno sotto e per di sotto sopra, sempre nella stessa vita. Ok, vabbè, adesso vedo se trovo qualcosa su internet, sicuramente sì, se no vado tipo San Tommaso, smonto, controllo, lo copio, lo faccio uguale. Ehi, un messaggio un attimino, messaggio di WhatsApp. Oh, che dopo devo di nuovo uscire, mamma mia. Mi sa che vado a Lourdes a chiedere la grazia, se non fosse che sono quasi ateo, per non dire ateo. Guarda, che è il momento del bisogno, che si abbigliano a qualcosa, ma... Tu l'avevi mai visto, Dalle, per grazia ricevuta, no? Ci sono due attori, uno è, adesso non vorrei sbagliare il film, uno è Manfredi, no? L'altro è un tipo anziano che tutta la vita praticamente ha detto che Dio non esisteva, proprio un ateaccio di quelli, no? Poi in punto di morte si è confessato, no, si è fatto fare dare l'olio santo, e lì Manfredi, no, nel film ha detto, ma come, tutta una vita è predicato, insomma, già capito, no? E poi dice, vabbè, non dicela, praticamente così farò io, mi in punto di morte mi pento, mi confesso, così meglio tenere tutte le porte aperte, non si sa mai. Avanti, Franco, buonasera. Buonasera, a lui ci vuole, sta morendo prima dell'ora, quello che vieni qua che te lo do io la benedizione, Marco. O come diceva padre Francesco, vieni che ti faccio baciare il cordone. No, non diceva così, te lo stavo per dire io adesso. Se vuoi l'estrema unzione, stira sto cordone. Ma sarà vivo ancora padre Francesco? Ah, non lo so, io tempo fa l'avevo visto al corso, ma non so se sia ancora vivo. A me già mi conosce lui, io lo conosco di vista, però lui a me mi conosce. Mi guarda, però mi saluta, quindi io so che è lui, però lo trovo sempre il meglio di animali, lui è appassionato di canali. Credo di se mi ricordo, lo conosco anch'io, ogni tanto lo vedo passeggiare qua al viale in Corso Vico. Io non è faceva l'infermiere, se può aiutare. Kappa, buonasera Franco, ben sentito, ci ho gentilmente concesso una radio diversa, dimmi come adesso. Ma con questo sei un segnale di sì, Radio 5. Ma col Kappa mi stai sentendo? No, negativo, con Lincoln. Ah, Kappa, fai sempre che c'ho Lincoln in mezzo. No, vabbè, sto scherzando. Anche se diciamo che è stato uno dei presidenti meno peggio degli Stati Uniti, è stato fatto fuori a causa della moneta sovrana statunitense. Vabbè, questo piccolo dettaglio. Vabbè, già, però l'importante, a me mi interessa che funzioni qua, poi tutta l'altro presidente non me ne frega niente. No, vabbè, era giusto una considerazione storica, non c'entra niente, perché ho visto che la presidente dà i nomi dei baracchini ai vecchi presidenti, capito? Ah, è chiaro, sì, vabbè. I presidenti ne ha fatti parecchie, che ne ha fatto, avanti già. Anche se a me non mi sono mai piaciuti le estetiche, dico la verità. Eia, lo sai che la prima volta che ho visto Lincoln con quei due tastini colorati, mi pare uno rosso e uno giallo, ho detto che brutto che è, mamma mia, eppure è stato uno dei più ambiti per tanto tempo. Questo fa anche lui che vuole la sua palata, a me non piace avere la palata che mi piace, io quelli che ho qua mi piacciono tutti. Io te l'appoggio. Però non è che interessa a te che esca bene, no? Deve essere anche bello la parata, lo guarda, mi piace. Più che Antonello vuole appoggiare. Ciao Antone, io te la spingo. K, ciao Franco, anche salutoni Gianni. E l'altro Gianni, salutoni a tutti. Ognuno ha i suoi gusti, magari un apparato che c'è bene, o qua, quello che vuoi, ma a me non mi piace di assai. Io gli dico, ne ho avuto uno, si chiamava, era la base, non me lo ricordo come si chiamava. E quello era meglio, la base era carino, però quelli veicolari non è che mi piace di assai. Sì, vabbè, già, c'è il Jackson che è bellissimo, Jackson non lo conosco, non me lo ricordo Jackson. Però io ho avuto il presidente, avanti mi vede, Washington, io ho avuto Washington, quello era bello. Sì, anche quello è bello. Ma hai visto l'ultimo che hanno fatto del Lincoln? Lincoln 2. È bello quello. No, non ho visto quello. Non sto qui a trovare a cercare baracchini. Mi bastano 10 chi vai, aspetta certo poi mi vorrei comprare, alla fine qui. Ma che adesso sono fatte le nove. Hai visto che hai soldi, Ambra? Che soldi non puoi comprare, quello che è vero, sì. Che soldi, mi viene voglia di comprare, me la toppecca. Ehi, che hai soldi? Dimmi nasi, già ricavi, sì. Se ti piace una cosa, già ricavi per comprare. Mi metti da parte, se proprio non ce la fai, poi quando ce ne te la compri, come faccio io? Io mettevo quel 10 euro al mese, così me ne mettevo da parte, un po' scarto, e poi quando mi è venuto lo avrò comprato. Non ho mai chiesto nulla a nessuno, però faccio la formica. È vero, anche io faccio così. 100 euro no, però che ne so, 1-2 euro al giorno, in saccoccia, piano piano, e poi quando c'è il dottoretto qualcosa si farà. Sì, l'anno scorso per gioco ci ha fatto un salvadanaio, la forma di porcellino, e ti ha detto sempre il tempo sul salvadanaio, ma lo facciamo andare. E ho cominciato a mettere monetine da 1 euro e da 2 euro. Ho fatto da gennaio a gennaio, l'ho aperto e c'erano 380 euro. Allora, io mi ricordo benissimo quando era uscito l'euro, no, ma non prendete in considerazione il vero valore della moneta. Cosa facevo? 3-4 euro, va, se va denaro, 2 euro, dai, se va denaro, e così via, questo per un bel po', non mi ricordo quanto tempo, dai. Poi è giunto il momento, non credo un Natale, e ho regalato il se va denaro a mia moglie. Abbiamo contato e per io ci facciamo un viaggio. E ve lo siete fatti? Manera, siamo andati a Palma di Mallorca. Hai fatto bene, sì. Ma io dico la verità, ne ho speso per cose di casa, pagare la roba, questo, quell'altro, il pollo, la circolazione della macchina, però tanto, se non avessi avuto quelli avrei dovuto gli dare lo stipendio, capito? È vero. Franco, riprendi, io non so neanche chi c'è perché sono appena rientrato, che ho preso a mio figlio, quindi non so chi c'è, quindi giro il mic a Franco e poi sarà lui a farlo girare, vai, avanti. Guarda, oggi io tutto quello che mi sono preso, tutto le soldi della sigaretta, perché mi hanno lasciato il vizio fumare tanti anni fa, e me li mettevo da parte e tutti i soldi che raccimolavo me li mettevo tutti dentro un corso. Poi quando avevo un bel gruppo mi compravo qualcosa. Ma lo sai Franco cosa ne ho comprato io da quando ho smesso di fumare? Penso un bel gozzo. Sono uscito per comprare un telefonino, ne sono tornato con un CBR 600 RR dal valore di 10.700 euro. Diavolo, e cos'è questa cosa? Honda CBR RR, una moto da strada. E io l'ho anche vista, siamo andati anche in giro insieme. è vero, ti ricordi che però ho portato a Claudio anche, ma no, no, te diciamo mal di schiena. Sì, siamo usciti una domenica insieme, sì. L'hai presa da Franco, mi si è spenta. Eia. Poi perché l'hai venduta, sì. Non ti andava più. No, vabbè, poi mi avevo preso, avevo preso lo scooterone per andare a lavorare, era più comodo, giustamente, avevo preso il Silverwing 400. Sì, già me lo ricordo che poi ha avuto un incidente un po' sbagliato, non mi ricordo più che la valigia. Cazzo. E vabbè, e poi ciccia, finita, l'avevo messa a posto e poi l'avevo venduta e non ne ho più preso. No, io con le moto ho finito, se prendo la moto i dolori continuano a persistere e aumentare più. È entrato anche poco avanti, dai. Dimmi tutto, dimmi, sono qua. No, è più che ci devi dire qualcosa, che si è entrato, ci devi raccontare qualcosa di bello. E parlaci di te. Sì, tutto il giorno da una cosa all'altra, so. Da su e giù e su, quindi capito di stato lo scendere giù, dalla mangiare Giampiero, pulirlo, eccetera, eccetera, e quindi poi risalgo qua, poi faccio la cena, come ho fatto stessa sera, eccetera, eccetera, e invece domani vi faccio un giretto, domani. Le vado di fronte a casa, mi bevo una bella bibetta, ci sono due ragazze buone che lavorano qui, così mi fanno compagnia. Vai, vai, che io dico Simona, vai. QTC per il profeta. Chi è? Non c'è più il profeta, Ciccio. Sono qua. Trovato, passa al 40 un attimo e prendi carta e penna. Capo Rogero. Torniamo subito. Marco, vuoi dire anche a me? Oh, per non interrompere qua, mi lo facevo. Se no restiamo qua, mi. Allora, sono quattro pin. Due chili anche a me. Oh, io sto fino a scendere di giudare, per via attendendo la figura, non si sa mai che ci dobbiamo fare di casa. Ma come volete, non c'è problema. Se io credo fuori, se esci, ti fa di piatto su tu. Io sono uscito, per la verità, sì, vento, ma non è che c'è proprio freddo. Sì, sono uscito in maglietta cotta che poco fa, giù, da Giampiero, siccome qua ci sono le finestre aperte del condominio. Non te lo dico nulla, il freddo che c'era, mi sono invitato a mettermi la felpa. Solo ieri, quando sono andato alla marina, stavo bene. Oggi è tutto un altro discorso, ieri c'era minimo 20 e passa gradi, oggi ma secondo me manco 15 ce ne sono. Non lo so, la giornata di domani è data nuvoloso con 18 gradi. Speriamo che non piova, cazzo. Ieri mi sono pigliato un'acqua quando ho portato il cane. Ho fatto a fare la pipì, ho trovato e incomincia quest'acqua tutta la fredda mi ha bagnato e fino a lungare si è bagnato. Ascolta, ce l'hai le bande? E certo che ce l'ho le bande, sto usando la 87. A voi le bande qui. E allora prova a andare USB a vedere come, e mi dici se è centrato, se va bene. E io sono spostato senz'altro, perché l'altra volta quando ho fatto la prova le risulta leggermente spostato, bisogna che devo prendere il cacciavizzino e c'è il film all'interno, c'è l'este con il frontale bianco per fare via la trattura. Vabbè, dai, facciamo la prova, USB mi hai detto. Uniform si avrà bravo, dai. E a Uniform Santiago Banana. Thank you. usando, tira fuori un bel po' di watt perché c'ha tre finali, quindi figurati. Gli altri monta il 2166, un 1969 e gli ho messo il 2312, che mi sarebbe corrispondente. Mi dà intorno ai 20 watt questo apparecchio qua. Va bene, però adesso stavo notando una cosa, quando stavi parlando tu, che sono rimasto un attimino lì in USB, ti sentivo come in AMG, quasi, dai. Strano, non so cosa dirti. Avanti back, chi è? Avanti Breco. La Croazia? K7351 dall'isola Sarda, l'abbiamo perso. Buonasera Croazia, isola Sardegna Italia da questa parte, stazione 1 Alfa Lima, in compagnia di Tino Muscolo, sempre con la Sassari. Sassari Sardegna, sei falato? Sì, falato. Ma quando stavi modulando tu, Antonio, ti ha coperto. Attenzione l'amico della Croazia, è sparita la propagazione. Magari ti ha sentito così. Se c'è la Croazia, dopo ci deve, proprio sul canale, sì, insomma di Codomare c'era un ponte simplex in FM. In pratica parli, ti risenti la voce tua. Dove codi fra? Oh, Antonio, dai, avevo sbagliato. Diciamo che già cambia la modulazione, pensavo di aver girato, invece mi dava in AM, invece no, dovevo fare un altro scatto, sai, perché questi fusi non sono proprio fermi, dai. Un pochino di gioco ce l'hanno, domani li mettono un pochino in altro. Io ti preoccupare, ma con questi ti sento bene a voglia. Ma se vuoi faccio girare un po' il 3009, che sono apparecchi che non lo uso. A posto della 87. C'ho anche lo Yaesu che afferma, vabbè, quello lo uso in più che altro in PMR. Oh, Antone. Dimmi fra. Ce l'hai l'uso? No, ce l'ho, però devo sbloccarlo perché mi ha segnato la scritta, devo fare il desktop, devo fare, siccome c'è l'account di mia nipote, capito? E quindi devo ripostarlo in pratica, hai capito? Domani me lo metto, così almeno se mi devi mandare qualche video o qualcosa del genere, non c'è problema, capito? No, era per mandarti una foto di un finale, per guardare a vedere se ce l'ha foto. Fusano, se capita che ci fa. Dimmi la sigla del finale, se vanno a Fusano domani te lo prendo. Aspetta che ce l'ho nella foto, faccio una foto, aspetta, dimmi qui. Ehi, dai, lasciamo qua, tanto adesso. Aspetta, pronto, visto che stanno preparando per il mandico, come si suol dire. Vabbè, siamo qua, dai. Hola, ciao, dei picchi allucinanti questa radio, Passi da 8:30 a 9:25. Bella storia. Poi vabbè, come si dice, se alto, che stanno con un watt e mezzo, forse due. Magari più alto e più rimane stabile la lancetta, Antone. Beh, logico quello. Dimmi la sigla. Ce l'hai una penna, che te ne dico tutte, così finisci. Aspetta, prendo una pinna, due minuti. Cazzo, stavo guardando delle cuffie che aveva mio figlio, tutte luminose, e quelle cuffie che avevi tu? L'ho preso io. L'ho preso io. così io con il Bluetooth. La radio? No, per il telefono, così si mette la musica. Però non le avevo mai viste, le avevo comprate io. Un regalo di mia moglie, gli ho fatto quello al suo compleanno, se non mi ricordo. Però le ho viste sempre spente, adesso per la prima volta le ho viste accese, e tu chi le ha dato? Vuol dire che non le accendeva mai, perché magari c'erano le batterie all'interno. Quindi la sigla fa. No, vabbè, non so se erano le batterie o meno, è che era per utilizzarle con online con la PS4, no? Dimmi il tuo nome, pronto? Sono pronto, dimmi. Allora, MS 13 07, poi sotto c'è 9208, poi sotto ancora c'è 3N, poi staccato c'è 5 ter. Scusate, riprendo io che mi sto allontanando. Nel caso ci sentiamo più tardi, se coincide, se no buonanotte, ciao a tutti. Ciao, sì, ci sentiamo allora, se no ci sentiamo ciao a tutti. Ho scritto tutto. Ciao Tino, ci sentiamo. Senti caso, ciao, a vedere se ce li ha. Tu mi dici anche quanto costa. E a quanti te ne servono? 1, 2, 4 ore servono. E da lei? Di preparazione. Non mi pare. Sì. Capito o mi hai dato? Ho detto quanti te ne servono, 1, 2, quante? Ah, comunque quella foto me l'hai mandata a Memmi. Un messaggio multimediale, mi ha mandato la fotografia col finale, adesso che mi sono ricordato. Oh, ed è quello lì, sicuramente è quello. Due me ne servono, perché tutti e due me li ha bruciati, vanno in tutti. Vabbè, te ne prendo due, te ne prendo, là. Tanto penso che questo è da fuoco. Te ne prendo due di quelli, così ce n'hai uno di riserva anche. Oh, tu mi dici quant'è, poi io ci parlo, io me li compro io, per non spendere tu, dai, poi ci passo io. Ah vabbè, allora facciamo così, vado, chiedo, se ce l'ha, te lo dico, e così vai e te lo ritiri. Come vuoi tu, se no te lo prendevo io e puoi passarvi qui, capito? E te lo ritiravi, non è che ti cambi molto la vita, no? Perché, ma non per quello, a parte quello lì. Poi ci passo io perché devo comprare anche altra roba, capito? Ah, vabbè, non c'è problema per quello, eh. Domani ci faccio una scappata. Sì, ti posso sapere. Quello non ci sono problemi. Al limite mi fai una bassa, mi fai, perché ce l'hai il mio numero tu. Sì che ce l'ho, sì, a voi. Capo, ma chi sono tutti qui? Non lo so chi sono questi. Mi hanno invitato, sta guardando. Oh, ma Gianni, doppio rum e cosa, andati via. Sì, è andato a portare il cane giù, Gianni. Ah, e l'altro Gianni? Come si chiama l'altro, no? Soprannome? Gianni, va. Non mi viene in mente il nome, comunque è andato, si è spostato un attimino con Marco. Ah, Gianni il profetto. Ehi, ogni tanto si solleva la propagazione. Stava accordando, ogni tanto c'è qualcuno che si attacca il lineare che si mette a accordare da fuori. Sta iniziando la propagazione a quest'ora. Non è che fa poco, sentiamo i tedeschi. Prova a andare USB a vedere. Ho capito, lo IAESO. Voi IAESO, no, all'87, proprio apparato CB, capito? E rimane nero il frontale, capito? Ah, avevo capito Lo 87 è l'altro, quello quadribaldo. No, quello lo utilizzo, già lo sai, in PMR parecchie volte. Ho messo la discola, ho capito. E in pratica ascolto tutte le bande, ascolto. Io sento tutte le antenne, invece la X300 l'ho staccata, ho lasciato la direttiva, così come è piazzata, e questo esce bellissimo. Poi invece con la discola ascolto tutte le altre frequenze, 29, 28 e le altre bande che mi copre, capito? Al posto della XG 300 ci hai messo la direttiva. C'è la direttiva per la V e per la U, e poi ho installato nell'altro cavetto quello che fa la frequenza HF, ci ho messo la discola. Infatti ho pensato la discola di mio cognato, capito? Me l'ha regalata, ho preso e installato quella, ho tolto la X300 e ci ho messo quella, è bassa, non è alta, però va bene, ricevevo in tutte le bande, capito, 29, 28, 27, anche in trasmissione va, e non mi crea nessun problema, la stazionale non ne ho, fa niente, mi copre tutte le bande, le copre. Se l'avessi messa più alta la discola sarebbe stato un buon botto. Capo, quella lì, quella sì, quella è bella, il discone è bello, perché solo per quello, perché ti copre tutte le bande, ti copre, è bello. E la direttiva come ce l'hai? È movibile oppure normale? No, l'ho staccata dal motore, perché il motore si è spaccato l'asse, ho visto, adesso dovevo, appena faranno delle belle giornate, prendo la crocetta, quella per agganciare i tiranti, e stacco il motore e vedo se si può riparare. Se si può riparare lo riparo e che ciccia. Si è spaccato proprio l'asse, che infatti a volte girava, a volte non girava. Adesso vediamo un po', se si può mettere a posto, lo mette a posto, se no me ne comprerò un altro di motore, che quello me l'avevo regalato, là. Ti copro un motore vero e proprio per direttiva e attacco alla cosa, così la giro dove voglio e sono tranquillo. Però devo spostarlo naturalmente, perché mentre riparo della macchina sarebbe inutile che la pipetta, perché non girerebbe solamente a metà. Cavolo, però un rotore buono di quelli che usano i radiomotori costa su più di 400 euro, dai 400 ai 450. Ho messo uno di quei rotori per TV, di quei rotori per TV piazzo, non è che ci piazzo altro. Ma va bene lo stesso, basta e avanza. Se non c'è peso, sì, che basta e avanza. Ma diciamo che, capita, quelli là sono... costano troppo, e se no lei non si è riabbigliata. No, spendo un centinaio di euro, ce già lo trovo, un motore di quelli percorso per antenna TV, va bene lo stesso, tanto non è che sia molto grande, capito? Almeno sono tranquillo. La sposto più giù, almeno fa tutto il giro, capito, completo. Poi piano piano già mi adatterò a sapere quel nord, sud, est, ovest, per fare i puntamenti, capito? Come si è dato, i radiomotori mi ha dato anch'io, mi piglio una cartina con tutti i dati e da lì mi regolo, con porto box. Capo, e infatti io avevo una volta avevo l'intenzione di prenderne uno e mettere un dipolo rotativo, sotto la mantova turbo, e la mantova turbo sopra al dipolo. Avevo quell'intenzione, poi ho visto quanto costano, che non ne vale la pena. Non ne vale la pena, no, ma c'è un tipo che c'è, devo telefonargli, e c'ha il motore contro box, gli devo chiedere quanto ne vuole, è un professionale, capito, della rematore, proprio per antenna grossa. Adesso questo per l'albero glielo chiedo per quanto costa l'anno. Secondo quanto ne vuole te lo prendi o fa. Ma guarda, aspetta, io non lo voglio spendere troppo. Se uno magari lo trovi per 50 euro, 100 euro va bene, però di più no. E vabbè, già glielo chiedo, se vuole intorno ai 50 a 100 euro già ti faccio sapere. Tanto c'è il motore e il control box c'è, quindi, poi addirittura c'è anche una di quelle antenne tonde, ti ricordi le antenne tonde che girano, cazzo, il vai automatico, vuol dire vai sulla frequenza e l'automatico si sposta, capito? C'è anche quell'antenna lì buttata. E a Besalbocco, lì ci vuole un tubo innocente, ci vuole, quando l'ho staccata, me stava scendendo la mazza a me. Guarda, quelle antenne, quella già non so cosa stai, quale antenna stai dicendo, ma quella pesa, è molto molto pesante, e quelle sono antenne da radioamatore. Già lo so, già l'ho attaccata io infatti, è messa dalla quarta, è messa, vuole messo il CRC perché se qualche tempo ferma, c'è tutto, c'è il cavetto, come si chiama per poter agganciare l'apparecchio, in modo quando cambi frequenza vai in automatico, tac, e si sposta, capito? Quella già era un'antenna bellina, ma pesa, cazzo, troppo pesa, quella è pericolosa, ci vuole la gaffa come si deve, se no ti la trovi giù, te la trovi. non è facile montare una cosa del genere, ci vogliono tiranti e bella ancorata. Sì, provo a vedere quanto ne vuole, poi se ci riesco, se ci arrivo a comprarmela me la prendo, se no pazienza. Ah beh, quello già è vero. Gappa. Ci andrà bene. Ah, sei giornata, UTV. Fresca, frizzante, speriamo che domani salga un pochettino dalla temperatura almeno. Sì, vabbè, ha messo un po' di bassa temperatura, ha messo. Ma però dalla prossima settimana probabilmente di nuovo temperature alte. Eccomi, sono rientrato. Avanti. Vabbè, no, niente, sono rientrato giusto per salutarvi. Stavo scambiando due chiacchiere con Marco, mi stava dando delle dritte sul connettore. E niente, vabbè, sono rientrato giusto per salutarvi, dai ragazzi. Buona serata, tante buone cose, dai, ci aggiorniamo prossimamente. Ok, buon proseguimento e tante cose belle. Ciao ciao. Via. Ciao Gianni. Comunque, segnale sì. E modulati 7 e radio 5. Ci sentiamo. Ciao, ci sentiamo, stavi bene, buon coletti, buon tutto e alle prossime. Avanti, bip, segnale 3 che è? Intanto pare un fantasma. Non ne ha voglia. La popolazione si è accesa al fumo. Ha fatto 3 secondi, anzi nemmeno, un minuto di propagazione e poi sparito. Sai che avevo sentito? La propagazione americana. C'era un periodo che era una cosa allucinante. Arrivava a 9.20, 9.30 dagli Stati Uniti. Non ho più sentito niente. Sono più di 2 anni che non sento gli americani, che strano. No, già ci sono. Sono nella frequenza 27.555. Ci sono, stasera c'erano e era una bomba. Oh, io non li ho più sentiti, 27 normali. Quando abitavo in Venezia era una cosa allucinante. Arrivavo a 9.20, 9.30. Ma una bomba proprio, sì lui sembrava. Va bene, la posizione era micidiale. C'era tutta la parte di Alghero che era libera centro Sardegna, quindi più alto di dove sono adesso, figurati, perché per Evosino, poi c'è quella, l'apertura che in pratica passa da Osino all'alta montagnetta dove c'è il ricorso, quindi c'era quel canalone, quello famoso, quella zona di Tempio e roba del genere. Da quella zona dovrebbe sparare? Sì, sì, quello sì. La musica ci stanno mettendo lì. Sì, ma deve essere propagazione adesso. Sì, propagazione da fuori. Roba dell'Ucraina deve essere. Com'è la modulazione? Chiara? Chiara, segnale enorme, tondo. Capo. Sì, da te dovrebbe essere enorme. Sì, già sta andando bene. A voi, che va bene. Capo, quando faccio di ex io mi faccio in coso, mi sono canale 7 in spagnolo del coso, di quell'applicazione. Figurati. Ogni volta che entro, ciao Marissimo. Ah, proprio, non sai che ho beccato l'altro giorno. Stavo ascoltando, si è cambiato il nominativo. Ti ricordi quello che quel maschietto che fa è trans? Quel maschietto della Tertaria che è trans, e che c'è la voce sensuale, te lo ricordi? Che lo faceva a pezzi. Ha cambiato nome, si è messo il nome, la donna si è messo. Come si chiamava quello? Aspetta, Tamburello. Ehi. E cosa è successo quello? Sta cambiando il nominativo, si è messo il nominativo la donna adesso, ho capito. Infatti l'ho sentito avanti, io l'ho sentita giù, mi toccato via Tamburello, ho detto. Si è messo il nome la donna. Infatti faceva parla come una donna. E quando mi ricordo che lo facevo la pizza, lo facevo. Ci ha messo un attimo la loro, è fatto che è convenuto, a me non gli dice niente nessuno. Infatti, non ci sono più entrato in quelle frequenze perché non mi piace. Poi dove vai tu? E sono spagnolo, non ti essere compreso. Ah, io già ci parlo ogni tanto. Ci ho parlato con Giuseppe una sera. Siamo stati 10-24 ore con un catalano, stavamo parlando. Va bene Antonio, dai, io ti lascio, io vado, mi faccio una doccia, che ci vuole. Ehi, d'accordo, va. Sentiamo domani al limite. Sì, ti faccio sapere. Adesso magari te la vado a fusare così chiedo se c'è questo finale. E poi ti faccio sapere domani sera. O domani mattina se entri. Certo, devo passare d'accordo, la fusata, quindi passo davanti da Nicco, così consegno questo Midland di Massimiliano Bulldozer a Claudio e lo porto lì, allora è a posto. Eia, va bene. Vince, ce li ha, fatto me ne seguo due. Devo... Allora, mi serve per mettere... No, sono i finali del lignaretto, sono del 737. Ok, già c'è una foto, me l'avevi mandata multimediale, ce l'ho nel telefonino, ce l'ho in quello rosa, capito? Quindi me lo sono ricordato adesso, c'è poco fa, perché me l'avevi già chiesto, adesso domani chiedo. È piccolino anche come linea, non è molto grande. No, è piccolino. Solo che, allora, ti spiego una cosa. Secondo quanto nel finale, non ne vale la pena. Perché questo con 40 euro, 30 euro, 40 euro lo prendo, capito? Già lo so. Ma stavo pensando, MS 1307. Dovrebbe corrispondere alla c'è un 1307 del come finale e due SC se non mi ricordo male, forse stesso corrispondente, adesso vediamo un po' domani. C'è il libretto, marca, c'è la controlla. Perché se ne vuole troppo io non lo aggiunto, che lo butto via, capito? Non mi interessa. Beh, logico, se uno costa 30-40 euro, ti scusa, ti conviene, ti avete comprati un bici 150, fai prima, che monta l'MRF 450. Per quello che costa 40 euro un bici 150, quindi ti conviene comprati una cosa del genere da internet, fai prima. E 100 watt, quello del 150, mentre questo non ci arriva a 100 watt. Sarà una trentina di watt, 40 watt penso in teoria. Se li metti quattro in parallelo di finali ti dà di più, perché quelli di Adelara montavano quello, altre montavano mi sembra due o tre in parallelo addirittura. È buono, non so. Diciamo che questo mi dava 80 watt. Vabbè, cioè, va bene lo stesso, non di niente, cioè. Domani già ti faccio sapere, vediamo un po'. Se vale la pena comprare, te lo prendi, non c'è problema. No, prima voglio sapere cosa costa, non ho... Sai come ti dico io? Tu mi dici solo che via e costa un altro giro. Che ya, ya, già ho capito già. Non c'è problema, non c'è problema. Cappa, va bene, dai. Ci sentiamo a te. Grazie per adesso, ciao. Che ya, di niente. Ci vediamo domani, dai, ciao, buonanotte.